Hai sentito l'ultima? Il tuo gatto non ci crederà. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace al tuo gatto, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2025. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su ultimapiacealtuogatto.it. La locanda della tormenta presenta Conan, nascerà una strega. Buon ascolto. 1. Taramis, regina di Cauran, si destò da un sonno infestato dagli incubi, in un silenzio che sembrava più l'immobilità delle catacombe di notte che la normale quiete di un palazzo addormentato. Giaceva fissando l'oscurità, chiedendosi perché le candele nei loro candelabri dorati si fossero spente. Una manciata di stelle si stagliava contro la finestra dall'intelaiatura dorata che non faceva passare alcuna luce all'interno della stanza. Però, mentre Taramis rimaneva distesa sul suo letto, si rese conto di una chiazza di luce che brillava nell'oscurità di fronte a lei. La osservò perplessa. La luminosità crebbe e la sua intensità si accentuò mentre si espandeva, un disco di luce livida fluttuante contro gli arazzi di velluto scuro sul muro di fronte. Taramis trattenne il fiato, mettendosi di scatto a sedere sul letto. All'interno del cerchio di luce era visibile un oggetto scuro, una testa umana. In preda ad un panico improvviso, la regina aprì le labbra per chiamare le sue ancelle. Poi riprese il controllo di se stessa. Il bagliore era divenuto ancora più livido, la testa delineata in maniera più vivida. Era quella di una donna, piccola, modellata con tratti delicati, dallo sguardo superbo e con un'alta massa di lucenti capelli neri. Il viso iniziò a distinguersi mentre lo fissava, e fu la visione del suo stesso volto che gelò il grido nella gola di Taramis. Quei lineamenti erano i suoi. Era come se si stesse guardando in uno specchio che alterava il suo riflesso, dotando gli occhi di un luccichio felino e di una vendicativa piega del labbro. «Ishtar!» gemette Taramis. «Sono stata stregata!» Sorprendentemente, l'apparizione parlò e la sua voce era come miele avvelenato. «Stregata? No, cara sorella, questa non è stregoneria!» «Sorella!» balbettò la ragazza stupefatta. «Io non ho sorelle!» «Non hai mai avuto una sorella?» replicò la dolce voce, velenosamente beffarda. «Neppure una sorella gemella, la cui carne era morbida come la tua, da accarezzare o da ferire?» «Beh, una volta avevo una sorella!» rispose Taramis, ancora convinta di essere nelle grinfie di qualche sorta di incubo. «Però morì!» Il viso bellissimo nel disco venne deformato dall'ira. La sua espressione divenne così diabolica che Taramis arretrò, quasi aspettandosi di vedere i riccioli mutarsi in serpenti sibilanti attorno alla fronte burnea. «Menti!» L'accusa eruppe attraverso le ringhianti labbra vermiglie. «Non morì, sciocca! Oh, basta con questa buffonata! Guarda! E che sia maledetta la tua vista!» La luce percorse improvvisamente gli arazzi come serpenti fiammeggianti e incredibilmente le candele nei candelabri dorati si accesero nuovamente. Taramis si rannicchiò sul suo letto di velluto, le snelle gambe ripiegate sotto di sé, fissando con gli occhi sbarrati la figura felina che aveva di fronte. Era come se stesse osservando una seconda Taramis, identica a sé in ogni aspetto corporeo, ma animata da una personalità aliena e malvagia. Nel volto di quella creatura straniera si rifletteva l'opposto di ogni caratteristica del comportamento della regina. Desiderio e mistero scintillavano dagli occhi luccicanti, la crudeltà si annidava nella piega delle piene labbra vermiglie. Ogni movimento del corpo sinuoso era subdolamente ammiccante. L'acconciatura imitava quella della regina e ai piedi indossava sandali dorati come quelli che Taramis portava nella sua alcova. La tunica di seta scollata e priva di maniche, stretta in vita da una cintura tessuta con stoffa dorata, era un duplicato della camicia da notte della regina. «Chi sei?» gemette Taramis, mentre un gelido brivido inspiegabile le percorreva la schiena. «Giustifica la tua presenza qui, prima che dica alle mie ancelle di chiamare le guardie! Puoi strillare fino a spaccare il soffitto!» rispose sarcasticamente la straniera. «Le tue sgualdrine non si sveglieranno che all'alba, anche se il palazzo dovesse andare a fuoco. Le tue guardie non udranno il tuo gracchiare. Sono state tutte allontanate da quest'ala del palazzo. Cosa?» esclamò Taramis, irrigidendosi con oltraggiata maestà. «Chi ha osato dare alle mie guardie tali ordini?» «Sono stata io, dolce sorella», la derise l'altra donna. «Poco fa, prima di entrare, hanno creduto che fossi la loro cara e adorata regina. Ah, come ho recitato bene la mia parte! Con quale imperiosa dignità, attenuata dalla dolcezza femminile, mi sono rivolta a quei grossi zoticoni inginocchiati nelle loro armature ed elmetti piumati!» Taramis sentì come se una soffocante rete di stupore le si fosse stretta attorno al corpo. «Chi sei?» gridò disperata. «Che follia è mai questa? Perché sei venuta qui?» «Chi sono?» C'era la malignità del sibilo del cobra in quella dolce risposta. La ragazza avanzò fino al bordo del letto, afferrò le candide spalle della regina con dita forti e si chinò per fissare gli occhi stupiti di Taramis. E sotto l'influsso di quello sguardo ipnotico, la regina dimenticò di indignarsi per l'incredibile oltraggio di mani violente sulla sua pelle regale. «Sciocca!» digrignò la ragazza. «Come puoi chiederlo? Non riesci a immaginarlo? Io sono Salome!» «Salome!» Taramis sibilò la parola e le si rizzarono i capelli sulla nuca quando comprese l'incredibile, stordente verità di quell'affermazione. «Credevo che fossi morta al momento della nascita!» «Così credettero in molti!» disse debolmente. «Mi portarono nel deserto a morire, maledetti! Io, una neonata piagnucolante, la cui vita era così giovane da essere meno del bagliore di una candela! E sai perché mi portarono là a morire?» Io ho sentito la storia!» balbettò Taramis. Salomè rise crudelmente e si batté il petto. La tunica scollata lasciava nuda la parte superiore del suo petto sodo e in mezzo ai seni luccicanti uno strano segno, una mezza luna, rossa come il sangue. «Il marchio della strega!» gridò Taramis ritraendosi. «Sì!» La risata di Salomè, piena di odio, era affilata come una lama di pugnale. «La maledizione dei re di Cauran!» «Certo, raccontano la storia nei mercati scuotendo le barbe e roteando gli occhi, quegli stupidi sciocchi. Dicono di come la prima regina della nostra casa si fosse accoppiata con un demone delle tenebre che le diede una figlia che vive in oscure leggende fino ai nostri giorni. E da quel momento, ogni secolo, nacque una bambina nella dinastia scauriana con una mezza luna scarlatta in mezzo al petto che segnava il suo destino. Ogni secolo nascerà una strega. Così recita l'antica maledizione. E così è stato. Alcune vennero uccise alla nascita, così come cercarono di uccidere me. Alcune vagarono per il mondo come streghe, orgogliose figlie di Cauran, con la luna dell'inferno che ardeva sul loro seno eburneo. A ciascuna venne dato il nome di Salomè. Anch'io sono Salomè. Fui sempre Salomè la strega. Sarò sempre Salomè la strega, persino quando le montagne di ghiaccio scenderanno ruggendo dal polo e distruggeranno le civiltà, e un nuovo mondo risorgerà dalle ceneri e dalla polvere. Persino allora ci saranno Salomè che vagheranno per il mondo per intrappolare i cuori degli uomini con le loro stregonerie, per danzare davanti ai re della terra e vedere le teste dei saggi cadere secondo i loro capricci. Però tu... balbettò Taramis. Io? Gli occhi scintillanti ardevano come misteriosi fuochi neri. Mi portarono nel deserto lontano dalla città e mi lasciarono nuda sulla sabbia bollente, sotto il sole fiammeggiante. E poi se ne andarono e mi lasciarono agli sciacalli, agli avvoltoi, ai lupi del deserto. Però la vita dentro di me era più forte di quella della gente comune, perché contiene l'essenza delle forze che ribollono nei golfi neri oltre la comprensione dei mortali. Le ore passavano e il sole mi sferzava come le fiamme dell'inferno, ma non morì. Certo, ricordo qualcosa di quel tormento, debolmente e lontanamente, come qualcuno può ricordare un vago sogno informe. Poi arrivarono dei cammelli e degli uomini dalla pelle gialla che indossavano abiti di seta e parlavano una strana lingua. Avendo perso la via carovaniera, mi passarono vicino e il loro capo mi vide e riconobbe la mezzaluna scarlatta sul mio petto. Mi prese con sé e mi restituì la vita. Era un mago del lontano Kitai che ritornava al suo reame natio dopo un viaggio in Stigia. Mi portò con sé fino a Paikan, dalle torri purpuree, con i suoi minareti che si alzavano tra le giungle di bambù infestate dai rampicanti. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Ufficio soluzioni esagerate. Buongiorno, sono Marco Quercia, falegname. Vi contatto perché le tasse mi martellano. Il carico fiscale è esagerato. Alleggeriscilo con i buoni pasto ticket restaurant Edered, 100% deducibili per aziende e semplici da attivare. E poi li usi in tutta Italia, anche per la spesa e il food delivery. Vai su ticketrestaurant.it. Esageratamente Edered. E la crebbi fino a diventare donna sotto i suoi insegnamenti. Il tempo lo aveva fatto scavare in profondità nelle conoscenze tenebrose, ma non aveva indebolito i suoi malefici poteri. Mi insegnò molte cose. Alla fine però mi scacciò, dicendo che non ero altro che una donna comune, nonostante i suoi insegnamenti, e che non ero in grado di dominare la potente stregoneria che mi avrebbe potuto insegnare. Mi avrebbe reso regina del mondo e avrebbe governato le nazioni grazie a me, mi disse. Ma io ero solo una sgualdrina delle tenebre, e con ciò non avrei mai potuto sopportare di rinchiudermi in una torre dorata e trascorrere lunghe ore a fissare una sfera di cristallo borbottando incantesimi scritti su pelle di serpente con il sangue di vergini, a sfogliare tomi ammuffiti scritti in lingue dimenticate. Disse che non ero altro che un folletto della terra, che non sapeva nulla degli abissi più profondi della stregoneria cosmica. Beh, questo mondo contiene tutto ciò che desidero. Potere e sfarzo, scintillante ostentazione, uomini affascinanti e tenere donne come amanti e schiavi. Mi disse chi ero, della maledizione e della mia discendenza. Sono tornata a riprendermi ciò che mi spetta, come spetta a te. Adesso è mio, per diritto di possesso. Cosa vuoi dire? Taramis, ripresasi dallo stupore e dalla paura, si alzò di scatto e fronteggiò la sorella. Credi che drogando alcune delle mie ancelle e ingannando alcune delle mie guardie, tu abbia stabilito una pretesa sul trono di Cauran? Non dimenticare che sono io la regina di Cauran. Come mia sorella ti darò un posto d'onore, ma... Salome rise con odio. Quale generosità da parte tua, dolce sorella. Però, prima che tu ti accinga a mettermi al mio posto, forse mi dirai a chi appartiene l'accampamento di soldati nella piana fuori dalle mura della città. Sono i mercenari scemiti di Constantius, il voivoda cotiano delle libere compagnie. E cosa ci fanno a Cauran? Tubò Salome. Taramis sentì di essere subdolamente presa in giro, ma rispose con un contegno di dignità che provava appena. Constantius ha chiesto il permesso di attraversare i confini di Cauran nel suo villaggio verso Turan. Lui stesso è ostaggio per il suo scorretto comportamento, fin tanto che si trovano all'interno dei miei domini. E Constantius non ha chiesto la tua mano? Proseguì Salome. Taramis lanciò alla sorella una corrucciata occhiata di sospetto. Come hai fatto a saperlo? L'unica risposta fu un'insolente scrollata delle snelle spalle nude. Hai rifiutato, cara sorella? Certo che ho rifiutato! Esclamò rabbiosa Taramis. Tu stessa, una principessa ashkauriana, credi che la regina di Cauran possa considerare una simile proposta con altro che sdegno? Sposare un avventuriero dalle mani lorde di sangue, un uomo esiliato dal suo stesso regno a causa dei suoi crimini e capo di una banda di razziatori di assassini prezzolati? Non avrei mai dovuto permettergli di portare i suoi macellai dalla Barba Nera a Cauran. Però egli è virtualmente prigioniero nella torre meridionale, sorvegliato dai miei soldati. Domani gli ordinerò di comandare alle sue truppe di lasciare il mio regno. Lui stesso rimarrà prigioniero qui fino a quando non avranno tutti attraversato il confine. Nel frattempo i miei soldati controllano le mura della città e l'ho avvisato che risponderà personalmente di ogni affronto perpetrato ai danni dei contadini e dei pastori dai suoi mercenari. Constantius è confinato nella torre sud? Chiese Salome. È ciò che ho detto. Perché lo chiedi? Come risposta, Salomè batté le mani e, alzando la voce con un gorgoglio di crudele celia nel tono, chiamò. La regina ti concede un'udienza, Falco. Una porta dagli arabeschi dorati si aprì e un'alta figura entrò nella camera, alla vista della quale Taramis gridò stupita e irata. Constantius! Osi entrare nella mia stanza! Come vedete, vostra maestà! Chinò la sua testa nera e affilata con beffarda umiltà. Constantius, che gli uomini chiamavano Falco, era alto, dalle spalle larghe, i fianchi stretti, agile e forte come una barra d'acciaio. Era bello, in modo aquilino e crudele. Il suo viso era arso dal sole, e i suoi capelli crescevano all'indietro sulla fronte alta e stretta, neri come ali di corvo. I suoi occhi scuri erano vigili e penetranti, la durezza delle sue labbra sottili non attenuata dai sottili baffi neri. I suoi stivali erano di cuoio di cordovan, i pantaloni e il giustacuore di semplice seta scura, resa opaca dall'usura dei campi e dalle macchie di ruggine dell'armatura. Torcendosi i baffi, fece scorrere lo sguardo sulla regina rannicchiata con una sfrontatezza che la fece trasalire. «Per Ishtar, Taramis!» disse con tono vellutato. «Ti trovo più attraente in vestaglia da notte che nelle vesti regali. Davvero, questa è una notte promettente!» La paura crebbe negli occhi scuri della regina. Non era una sciocca. Sapeva che Constantius non avrebbe mai osato portarle questo affronto a meno che non fosse sicuro di sé. «Siete pazzi!» disse Taramis. «Se io sono in vostro potere in questa stanza, voi lo siete altrettanto dei miei sudditi, che vi faranno a pezzi se mi toccate. Andatevene subito, se volete vivere!» Entrambi risero beffardamente e Salomè fece un gesto impaziente. «Basta con questa farsa! Passiamo al punto successivo della commedia. Ascolta, cara sorella. Sono stata io che ho fatto venire qui Constantius. Quando decisi di impadronirmi del trono di Cauran, mi sono guardata attorno alla ricerca di un uomo che mi aiutasse e scelsi il falco a causa della sua totale mancanza di tutte quelle caratteristiche che gli uomini chiamano buone.» «Sono sopraffatto, principessa», mormorò Constantius sardonicamente, compiendo un profondo inchino. «L'ho mandato a Cauran immediatamente, e una volta che i suoi uomini si furono accampati nella piana esterna alla città e lui fu accolto a palazzo, entrai in città da un piccolo cancello nelle mura occidentali. Gli sciocchi che lo sorvegliavano credettero che si trattasse di te, di ritorno da qualche avventura notturna.» «Maledetta!» Le guance di Taramis avvamparono e lo sdegno ebbe la meglio sul suo contegno regale. Salomè rise dura. «Furono semplicemente sorpresi e scioccati, ma mi fecero entrare senza indugi. Entrai nel palazzo nello stesso modo e diedi ordine alle guardie sorprese di andarsene, così come agli uomini che sorvegliano Constantius nella torre sud. Poi venni qui, occupandomi nel frattempo delle ancelle.» Le dita di Taramis si serrarono ed ella impallidì. «Beh, che altro c'è?» chiese con voce scossa. «Ascolta.» Salomè inclinò il capo. Debolmente, attraverso la finestra, giunse il rumore di uomini in armatura in marcia. Aspre voci gridavano in una lingua aliena e richiami d'allarme si mescolavano alle grida. «Il popolo si sveglia ed è spaventato», disse Constantius sardonicamente. «Faresti meglio ad uscire e rassicurarli, Salomè.» «Chiamami Taramis», rispose Salomè. «Dobbiamo abituarci a quel nome.» «Cosa hai fatto?» piagnucolò Taramis. «Cosa hai fatto?» «Sono andata ai cancelli e ho ordinato ai soldati di aprirli», rispose Salomè. «Erano sorpresi, ma hanno obbedito. Quello che ascolti è l'esercito di Falco che marcia sulla città.» «Demonio!» strillò Taramis. «Hai tradito il mio popolo sotto le mie spoglie! Mi hai fatta apparire una traditrice! Oh, devo andare da loro!» Con una risata crudele, Salomè l'afferrò per il polso e la spinse indietro. La magnifica agilità della regina era inutile contro la forza vendicativa che armava le agili membra di Salomè. «Sai come raggiungere le segrete del palazzo, Constantius?» disse la strega. «Bene. Portaci questa sputafuoco e rinchiudila nella cella più robusta. I carcerieri sono tutti caduti in un sonno drogato. Ci ho pensato io.» Manda un uomo a tagliare loro la gola prima che si sveglino. Nessuno dovrà mai sapere cos'è accaduto questa notte. D'ora in avanti io sono Taramis. E Taramis è una prigioniera sconosciuta in una segreta abbandonata. Constantius sorrise con un luccichio di forti denti bianchi sotto i baffi sottili. Molto bene, però non vorrai negarmi prima un piccolo divertimento. Affatto. Doma questa boriosa sgualdrina come meglio ti pare. Con una risata malvagia, Salomè gettò la sorella nelle braccia del cotiano e uscì dalla porta che si apriva verso il corridoio esterno. Il terrore albergò i begli occhi di Taramis, la sua snella figura rigida e tesa contro l'abbraccio di Constantius. Dimenticò gli uomini che marciavano nelle strade, dimenticò l'oltraggio alla sua regalità di fronte alla minaccia alla sua femminilità. Dimenticò ogni sensazione, tranne il terrore e la vergogna, quando fronteggiò l'assoluto cinismo degli ardenti e beffardi occhi di Constantius, quando sentì le sue forti braccia schiacciare il suo corpo fremente. Salomè, affrettandosi lungo il corridoio esterno, sorrise malignamente, quando un grido di disperazione e di dolore risuonò vibrante per il palazzo. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo Store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Due. La camicia e i pantaloni del giovane soldato erano chiazzati di sangue secco, fradici di sudore e grigi per la polvere. Il sangue fluiva dalla profonda ferita alla coscia, dai tagli sul petto e sulla spalla. Il sudore luccicava sul volto livido e le sue dita erano intrecciate nella coperta del divano su cui era disteso. Eppure le sue parole riflettevano una sofferenza mentale che sopraffaceva il dolore fisico. «Deve essere impazzita!» ripeté nuovamente e poi ancora, come qualcuno ancora stordito da qualche accadimento mostruoso e incredibile. «È come un incubo! Taramis, che tutta Kauran ama, ha tradito il suo popolo a quel diavolo di Kot! Oh, Ishtar, perché non sono stato ucciso? Meglio morire che vivere per vedere la nostra regina divenire una traditrice e una sgualdrina!» «Stai calmo, Valerius», implorò la ragazza che gli stava lavando e bendando le ferite con mani tremanti. «Oh, ti prego, stai calmo, tesoro. Farai peggiorare le ferite. Non osavo chiamare un cerusico.» «No!» borbottò il giovane ferito. «I diavoli dalla barba nera di Constantius staranno perlustrando il quartiere alla ricerca di cauriani feriti. Ah, impiccheranno ogni uomo con ferite che dimostrino che ha combattuto contro di loro. Oh, Taramis, come hai potuto tradire il popolo che ti adorava?» Nella sua feroce agonia, l'uomo tremò piangendo per l'ira e la vergogna. E la ragazza, terrorizzata, lo strinse tra le braccia, cullandogli la testa inquieta contro il suo petto, implorandolo di calmarsi. «Meglio la morte che la nera infamia che ha colpito oggi Kauran!» gemette lui. «Hai visto Ivga?» «No, Valerius.» Le sue dita agili e delicate erano nuovamente al lavoro, pulendo gentilmente e chiudendo i bordi delle ferite fresche. «Venni svegliata dai rumori dei combattimenti lungo le strade. Guardai fuori da una finestra e vidi gli scemiti abbattere la popolazione. Poco dopo ti udii chiamarmi debolmente dalla porta sul vicolo.» «Ero giunto allo stremo delle forze. Caddi nel vicolo e non riuscii più ad alzarmi. Sapevo che se fossi rimasto là, prima o poi mi avrebbero trovato. Ho ucciso 3 di quei diavoli barbuti per Ishtar. Non scorrazzeranno più per le strade di Cauran per gli dei. I demoni staranno strappando i loro cuori negli inferi. La ragazza tremante iniziò a cullarlo dolcemente come si fa con un bimbo ferito e gli chiuse le labbra ansanti con la sua fresca e dolce bocca. Però il fuoco che ardeva nell'animo del giovane non gli permise di rimanere disteso in silenzio. «Ah, non ero sulle mura quando entrarono gli scemiti! Stavo dormendo nella caserma insieme agli altri non in servizio. Fu giusto poco prima dell'alba quando entrò il nostro capitano. Il suo volto era pallido sotto l'elmetto. «Gli scemiti sono in città!» ci disse. «La regina è venuta al cancello meridionale e ha dato l'ordine di farli entrare. Ha fatto scendere gli uomini dalle mura dove erano stati di guardia da quando Constantius entrò nel regno. E io non capisco, e neppure gli altri. Però l'ho sentita dare l'ordine e abbiamo obbedito come abbiamo sempre fatto. Ci è stato ordinato di riunirci nella piazza di fronte al palazzo. Schieratevi fuori dalla caserma e marciate! Lasciate le armi e le armature qui!» «Solo Ishtar sa cosa significa tutto ciò, ma questo è l'ordine della regina!» Beh, quando giungemmo nella piazza, gli scemiti erano schierati ai piedi sul lato opposto della piazza. 10.000 di quei diavoli barbuti armati di tutto punto! E le teste della gente facevano capolino da ogni finestra o porta della piazza. Le strade che portavano alla piazza erano affollate di persone stupefatte. Taramis era sui gradini del palazzo, sola. Tranne Constantius, che l'era accanto lisciandosi i baffi come un grosso gattone che ha appena divorato un passero. Però 50 scemiti armati di arco erano schierati sotto di loro. Erano proprio dove si sarebbe dovuta trovare la guardia della regina. Ma quest'ultima era allineata ai piedi della scalinata del palazzo, perplessa come noi, sebbene fosse armata nonostante gli ordini. Poi Taramis ci parlò, dicendoci che aveva riconsiderato l'offerta di matrimonio fattale da Constantius. Ma come? Solo ieri l'aveva rifiutata sdegnosamente davanti a tutta la corte e adesso aveva deciso di farlo suo regale consorte. Non spiegò perché aveva fatto entrare in marcia così subdola gli scemiti in città. Però disse che poiché Constantius aveva il comando di un corpo di combattenti professionisti, l'esercito di Cauran non era più necessario e pertanto lo smantellava, ordinandoci di tornare tranquillamente alle nostre case. Beh, l'obbedienza alla nostra regina è per noi una seconda natura. Però fummo colpiti profondamente e non trovammo parole per replicare. Rompemmo le righe quasi prima di renderci conto di che cosa stessimo facendo come uomini storditi. Però quando venne ordinato alla guardia del palazzo di posare le armi e di sciogliersi, il capitano delle guardie, Conan, l'interruppe. Gli uomini dicono che la notte precedente fosse fuori servizio e ubriaco. Però in quel momento era perfettamente sobrio. Gridò ai suoi uomini di rimanere dove si trovavano fino a quando non avesse ricevuto ordini da lui. E tale è il carisma che esercita sui suoi uomini che questi gli obbedirono nonostante gli ordini della regina. Egli salì i gradini del palazzo e fissò Taramis. E poi ruggì: «Questa non è la regina! Questa non è Taramis! È qualche diavolo nelle sue vesti!» egli disse. E poi si scatenò l'inferno. Io non so cosa accadde esattamente. Credo che uno scemita colpì Conan e Conan lo uccise. L'istante successivo la piazza divenne un campo di battaglia. Gli scemiti si avventarono sulle guardie e le loro lance e frecce abbatterono molti soldati che stavano già sciogliendo le fila. Alcuni di noi afferrarono quelle poche armi che riuscimmo a trovare e combattemmo. Sapevamo appena contro chi stavamo lottando, ma era contro Constantius e i suoi diavoli, non contro Taramis, io lo posso giurare. Constantius ordinò di abbattere i traditori, ma noi non eravamo traditori. La disperazione e lo stupore scossero la voce di Valerius. La ragazza mormorò affettuosamente, senza comprendere completamente, ma soffrendo anche lei per le pene del suo amato. Ah, la gente non sapeva per quale fazione parteggiare. Fu un manicomio di confusione e di stupore. Noi non avevamo alcuna possibilità, senza formazione, senza corazza e armati solo in parte. Le guardie erano equipaggiate di tutto punto, ma erano solo 500. Inflissero però gravi perdite prima di essere abbattute. Ma poteva esserci solo una conclusione per una simile battaglia. E mentre il suo popolo veniva massacrato di fronte ai suoi occhi, Taramis rimase sui gradini del palazzo con il braccio di Constantius attorno alla vita, ridendo come un bellissimo demonio senza cuore. Dei, è tutta una pazzia! Non ho mai visto un uomo combattere come Conan. Si mise con la schiena contro il muro del cortile. E prima di essere sopraffatto, vidi i cadaveri attorno a lui che erano ammucchiati fino alla sua coscia. Però alla fine lo abbatterono 100-1. Quando lo vidi cadere, mi trascinai via con la sensazione che il mondo fosse esploso sotto le mie stesse dita. Udii Constantius ordinare ai suoi uomini di prendere vivo il capitano Conan, lisciandosi i baffi con quell'odioso sorriso sulle labbra. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Quel sorriso era sulle labbra di Constantius in quell'istante. Sedeva sul suo cavallo in mezzo a un manipolo dei suoi uomini, robusti scemiti dalle ricce barbe nere e dai nasi adunchi. Il sole basso mandava bagliori dai loro elmetti a punta e dalle scaglie argentate dei loro corsaletti. Circa un miglio più indietro, le mura e le torri di Cauran si levavano alte dalla prateria. Accanto alla via carovaniera era stata eretta una pesante croce, e a questo lugubre albero era appeso un uomo con grossi chiodi di ferro attraverso le mani e i piedi. Nudo, salvo un perizoma, l'uomo aveva quasi la statura di un gigante e i suoi muscoli risaltavano come spesse corde sugli arti e nel corpo che da tempo il sole aveva abbronzato. Il sudore, dovuto al dolore, imperlava il volto e il suo petto possente, ma da sotto la arruffata capigliatura nera che cadeva sulla bassa e ampia fronte, i suoi occhi azzurri ardevano di un fuoco indomito. Il sangue colava denso dalle lacerazioni delle mani e dei piedi. Constantius lo salutò beffardo. «Mi spiace, capitano, di non poter rimanere a godermi le tue ultime ore, ma ho degli affari da sbrigare in quella città laggiù. Non posso far attendere la nostra deliziosa regina. Ah, così ti lascio a te stesso e a quelle bellezze!» Indicò significativamente le alte ombre scure che solcavano incessantemente il cielo. «Se non fosse per loro, immagino che un possente bruto come te potrebbe sopravvivere sulla croce anche per giorni. Non farti alcuna illusione di essere salvato solo perché ti lascio qui senza sorveglianza. Ho emesso un proclama che se qualcuno cercasse di staccare il tuo corpo vivo o morto dalla croce, verrà sferzato a morte insieme a tutti i membri della sua famiglia nella pubblica piazza. Sono così potente a Cauran che un mio ordine ha lo stesso valore di un reggimento di guardie. Non lascio alcuna sentinella, perché gli avvoltoi non si avvicineranno fin tanto che qualcuno si trova nei pressi, e non desidero che abbiano alcuna restrizione. Questo è anche il motivo per cui ti ho portato così lontano dalla città. Questi avvoltoi del deserto non si avvicinano oltre le mura di Cauran. E così, coraggioso capitano, addio! Mi ricorderò di te quando tra un'ora Taramis sarà nelle mie braccia! Il sangue sgorgò fresco dalle palme squarciate quando i poderosi pugni della vittima si strinsero convulsamente sulle teste dei chiodi. Con i fasci di muscoli in rilievo sulle braccia massicce, Conan piegò in avanti la testa e sputò selvaggiamente sul volto di Constantius. Il voivoda rise freddamente, si asciugò la saliva dalla gorgiera e voltò il cavallo. Ricordati di me quando gli avvoltoi ti strapperanno la carne viva! Gli spazzini del deserto sono particolarmente voraci. Ho visto uomini appesi per ore ad una croce senza occhi, senza orecchie e senza scalpo, prima che i vecchi aguzzi si facessero strada nei loro organi vitali. Senza rivolgergli uno sguardo, Constantius cavalcò verso la città. Una snella figura eretta, scintillante nella sua armatura brunita, seguita dai suoi stolidi uomini barbuti. Un debole sollevarsi di polvere dalla pista consumata segnò il loro passaggio. L'uomo, appeso alla croce, era l'unico esempio di vita senziente in un paesaggio che sembrava desolato e deserto nella sera. Cauran, a meno di un miglio di distanza, avrebbe anche potuto trovarsi all'altro capo del mondo ed esistere in un'altra epoca. Detergendosi il sudore dagli occhi, Conan fissò vacuamente il terreno familiare. Su entrambi i lati della città e dietro di essa si stendevano le fertili praterie con il bestiame lontano al pascolo e dove i campi e i vigneti punteggiavano la pianura. A nord e ad occidente sorgevano i villaggi delle miniature in lontananza. A minor distanza a sud-est un lampo argenteo segnava il corso di un fiume. Al di là di esso si apriva improvviso il deserto sabbioso per estendersi fin oltre l'orizzonte. Conan fissò la distesa desertica che scintillava scura nella luce del crepuscolo, come un falco intrappolato osserva il cielo aperto. Il disgusto lo scosse quando posò lo sguardo sulle lucenti torri di Cauran. La città l'aveva tradito, intrappolandolo in circostanze che lo avevano lasciato appeso ad una croce di legno come una lepre inchiodata ad un albero. Un fosco desiderio di vendetta scacciò però quel pensiero. Le imprecazioni sgorgarono violente dalle labbra dell'uomo. Tutto il suo universo si contrasse, si focalizzò, venne incorporato nei quattro chiodi di ferro che lo tenevano lontano dalla vita e dalla libertà. I suoi grandi muscoli vibrarono, gonfiandosi come funi d'acciaio. Con il sudore che colava dalla pelle che diventava grigia, cercò di far leva, di staccare i chiodi dal legno. Era inutile. Erano stati piantati troppo in profondità. Allora Conan cercò di staccare le mani dai chiodi. Ma non fu il lancinante dolore che alla fine lo costrinse ad abbandonare i suoi sforzi, ma la loro inutilità. Le teste dei chiodi erano larghe e pesanti. Non sarebbe riuscito a farle passare attraverso le ferite. Un'ondata di impotenza scosse il gigante per la prima volta nella sua vita. Rimase appeso immobile, la testa poggiata sul petto, chiudendo gli occhi contro il doloroso bagliore del sole. Un battito d'ali gli fece sollevare il capo proprio mentre un'ombra piumata calava dal cielo. Un becco aguzzo cercò di cavargli gli occhi, ma gli tagliò la guancia e Conan piegò violentemente la testa di lato, chiudendo gli occhi involontariamente. Gridò, un gracchiante e disperato urlo di minaccia, e gli avvoltoi virarono e si allontanarono spaventati da quel suono. Ripresero a volare in cerchi cauti sopra la testa del barbaro. Il sangue gocciolava sulla bocca di Conan e il cimmaro si leccò le labbra involontariamente, sputando di fronte al gusto salato. La sete lo assalì selvaggiamente. Aveva bevuto molto vino la notte passata e non aveva toccato acqua fin da prima della battaglia nella piazza quella mattina. E uccidere era un lavoro che metteva sete, perché faceva sudare. Fissò il lontano fiume come un uomo all'inferno fissa attraverso la grata aperta. Pensò alle fresche sorgenti di acqua bianca in cui si era immerso fino alle spalle come giada liquida. Ricordò i grandi corni pieni di birra spumeggiante, i boccali di vino frizzante inghiottiti con noncuranza o rovesciati sul pavimento della taverna. Si morse il labbro per impedirsi di tuonare come muggisce un animale torturato per la terribile sofferenza. Il sole tramontò, una lurida palla in un feroce mare di sangue. Contro un bastione cremisi che circondava l'orizzonte, le torri della città fluttuavano irreali come in un sogno. Il cielo stesso era macchiato di sangue di fronte al suo sguardo offuscato. Si leccò le labbra annerite e fissò con occhi iniettati di sangue il fiume lontano. Anche quello sembrava cremisi come sangue e le ombre che scivolavano da oriente sembravano nere come ebano. Le sue orecchie ronzanti risuonò un battito d'ali. Alzando il capo, sorvegliò con lo sguardo bruciante di un lupo le ombre roteare sopra di lui. Sapeva che le sue grida non avrebbero più spaventato gli avvoltoi. Uno di questi si tuffò in picchiata, sempre più in basso. Conan spinse indietro la testa il più possibile, attendendo con terribile pazienza. L'avvoltoio si abbassò con un rapido frullo di ali. Il suo becco dardeggiò verso il basso, lacerando la pelle del mento di Conan. Quando il barbaro scostò di lato la testa. Poi, prima che l'uccello potesse allontanarsi, la testa del cimmero scattò in avanti, spinta dai poderosi muscoli del collo, e i suoi denti, chiudendosi come quelli di un lupo, si serrarono sul collo nudo del volatile. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Pronto, ufficio soluzioni esagerate. Salve, sono Luca Soldoni, consulente finanziario. Chiamo perché devo fare i conti con le tasse. Il carico fiscale è esagerato. Alleggeriscilo con i buoni pasto ticket Restaurant Edred. Sono deducibili anche per una partita IVA come te. E scarichi tutto con una fattura unica. E poi sono spendibili in tutta Italia anche per la spesa e il food delivery. Vai su ticketrestaurant.it. Esageratamente Edred. Istantaneamente l'avvoltoio esplose in un parossismo di svolazzanti stridii. Le sue ali sferzanti accecarono l'uomo e i suoi artigli gli graffiarono il petto. Però testardamente Conan mantenne la presa, i muscoli delle mascelle gonfi. E le ossa del collo del divoratore di carogne si spezzarono sotto quei denti poderosi. Con uno spasmo frenetico, l'uccello si accasciò. Conan lo lasciò andare sputando il sangue. Gli altri avvoltoi, terrorizzati dal destino toccato al loro compagno, fuggirono immediatamente su un albero lontano, dove rimasero appollaiati come neri demoni in un conclave. Una feroce sensazione di trionfo sorse nel cervello ottenebrato di Conan. La vita scorreva ancora forte e selvaggia nelle sue vene. Poteva ancora affrontare la morte, era ancora vivo. Ogni minima sensazione, persino di dolore, era una negazione della morte. Per Mitra! O aveva parlato una voce, oppure Conan aveva avuto un'allucinazione. In tutta la mia vita non ho mai visto una cosa simile. Scotendosi il sudore e il sangue dagli occhi, Conan vide quattro cavalieri che lo fissavano seduti sui loro cavalli alla luce del crepuscolo. Tre erano snelli falchi dalle vesti bianche, nomadi zuagiri senza dubbio, da oltre il fiume. Il quarto indossava, come gli altri, una calat bianca stretta in vita e un copricapo fluttuante che, stretto sulle tempie da un triplice cerchio di peli di cammello intrecciati, gli ricadeva sulle spalle. Però non si trattava di uno scemita. L'oscurità non era ancora così fitta e neppure la vista acuta di Conan era così offuscata da non permettergli di riconoscere i lineamenti dell'uomo. Era alto quanto Conan, sebbene gli arti non fossero altrettanto massicci. Aveva le spalle ampie e la sua agile figura era dura come l'acciaio e tosso di balena. Una corta barba nera non celava completamente la mascella sfuggente e occhi grigi, freddi e penetranti come una spada luccicavano dalle ombre del caffia. Calmando l'inquieta cavalcatura con mano rapida e sicura, quell'uomo parlò. «Per Mitra! Mi sembra di conoscere quell'uomo!» «Sì!» fu l'accento gutturale di uno zuagiro. «È il cimmero che era capo delle guardie della regina!» «La regina deve aver deposto i suoi vecchi favoriti! Chi lo avrebbe mai pensato della regina Taramis?» «Avrei preferito una lunga guerra sanguinosa!» «Avrebbe dato l'opportunità a noi, gente del deserto, di fare del bottino!» «Peccato, siamo venuti così vicini alle mura e abbiamo trovato solo questo ronzino!» Gettò un'occhiata a un bel castrone condotto da uno dei nomadi. «E anche questo cane morente!» Conan sollevò la testa sanguinante. «Se potessi scendere da questa croce, farei di te un cane morente, ladro zaporoscano!» Gracchiò attraverso le labbra annerite. «Mitra, quel furfante mi conosce! Allora, furfante, come fai a sapere chi sono?» «C'è solo uno della tua razza da queste parti. Sei Holger da Vladislav, il capo dei briganti!» «Certo! E un tempo un hetman dei cosacchi del fiume Zaporoskan, come hai indovinato!» «Vuoi vivere?» «Solo uno sciocco farebbe una domanda del genere!» ansimò Conan. «Io sono un uomo duro e la durezza è l'unica qualità che rispetto in un uomo. Giudicherò se sei un uomo oppure solo un cane buono per rimanere lì a morire. Se lo portiamo via di lì potrebbe essere visto dalle mura», obiettò uno dei nomadi. Holgerd scosse il capo. «L'oscurità è troppo fitta. Là, prendi quest'ascia, Jebal, e abbatti la croce alla base. Se cade in avanti lo schiaccerà», obiettò Jebal. «Posso tagliare in modo che cada all'indietro, ma allora l'impatto della caduta potrebbe spaccargli il cranio e lacerargli i visceri». «Se merita di cavalcare con me sopravviverà», rispose imperturbabile Holgerd. «In caso contrario non merita di vivere. Taglia!» Il primo impatto dell'ascia contro il legno e le vibrazioni che seguirono mandarono fitte di dolore attraverso i piedi e le mani gonfie di Conan. Ancora e ancora la lama si abbatté e ogni colpo riverberò nel suo cervello scosso, facendo vibrare i suoi nervi torturati. Però Conan strinse i denti e non emise alcun suono. L'ascia tagliò la croce che ruotò sulla base mozzata e cadde all'indietro. Conan rese il suo corpo un solido fascio di muscoli d'acciaio, spinse con forza la testa contro il legno e la tenne rigida. L'asse colpì il terreno pesantemente e rimbalzò appena. L'impatto gli allargò le ferite e lo stordì per un istante. Lottò nauseato e stordito contro la montante marea di oscurità che lo aveva assalito, ma comprese che i muscoli d'acciaio che rivestivano i suoi organi interni lo avevano salvato da danni permanenti. E non aveva emesso alcun suono, sebbene il sangue gli colasse dalle narici e i muscoli dello stomaco tremassero per la nausea. con un grugnito di approvazione, Jebal si chinò su Conan con un paio di pinze utilizzate per estrarre i chiodi dai ferri di cavallo e strinse la testa del chiodo che bloccava la mano destra di Conan, lacerando la pelle per ottenere una presa migliore sulla testa piantata in profondità. Le tenaglie erano piccole per quel tipo di lavoro. Jebal sudava e tirava, imprecando e lottando con il ferro tenace, muovendolo avanti e indietro, nella carne gonfia così come nel legno. Il sangue schizzò colando sulle dita del cimmero. Il barbaro giaceva così immobile che sarebbe potuto sembrare morto se non fosse stato per lo spasmodico alzarsi e abbassarsi del suo grande petto. Il chiodo si staccò e Jebal sollevò l'oggetto insanguinato con un grugnito di soddisfazione, poi lo gettò via e si chinò sull'altro. Il processo venne ripetuto e poi Jebal rivolse la sua attenzione ai piedi lacerati di Conan. Però il cimmero, sforzandosi di mettersi a sedere, strappò le tenaglie dalle dita del nomade e lo mandò a barcollare all'indietro con una violenta spinta. Le mani di Conan erano gonfie quasi il doppio del normale, le sue dita erano come dei pollici deformi e chiudere la mano era un'agonia che gli faceva colare il sangue da sotto i denti serrati. Però in qualche modo serrò le tenaglie goffamente con entrambe le mani e riuscì a staccare prima un chiodo e poi l'altro. Non erano stati piantati nel legno così in profondità come gli altri. Si alzò rigidamente e si eresse, nonostante i piedi gonfi e martoriati, ondeggiando come un ubriaco, mentre un sudore gelido gli colava dal viso e dal corpo. Venne assalito dai crampi e strinse la mascella per contrastare il desiderio di vomitare. Holgerd, osservandolo con sguardo impersonale, gli fece cenno di andare verso il cavallo rubato. Conan avanzò a fatica verso l'animale e ogni passo era un inferno lacerante e pulsante che gli riempiva di schiuma sanguinolenta le labbra. Una mano deforme e brancolante si poggiò goffo sulla sella, un piede sanguinante in qualche modo trovò la staffa. Stringendo i denti si issò in sella e per poco non svenne a mezz'aria. Poi si accasciò sulla sella e mentre faceva ciò Holgerd colpì violentemente il cavallo con il frustino. La bestia si impennò e l'uovo sulla sella ondeggiò e si accasciò come un sacco di patate, quasi cadendo. Conan aveva avvolto una redine attorno a ciascuna mano tenendola ferma con il pollice. Come un ubriaco esercitò la forza dei suoi enormi bicipiti facendo abbassare il cavallo e l'animale nitrì quasi slogandosi la mascella. Uno degli scemiti sollevò dubbiosamente una fiasca d'acqua, ma Holgerd scosse il capo. «Lasciamo che aspetti fino al campo! È solo a 10 miglia da qui! Se deve vivere nel deserto, sopravviverà per quel tratto senza bere!» Il gruppo cavalcò come rapidi spettri verso il fiume. In mezzo a loro, Conan ondeggiava come un ubriaco sulla sella, gli occhi fissi iniettati di sangue, la schiuma che si seccava sulle labbra annerite. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Re. Il saggio Astreas, viaggiando in Oriente nella sua incessante ricerca della conoscenza, scrisse una lettera al suo amico e filosofo Alcemide, nella sua natia Nemedia. Questa lettera costituisce l'intera conoscenza da parte delle nazioni occidentali riguardo gli eventi di quel periodo in Oriente, da sempre una regione nebulosa, quasi mitica, nelle menti delle genti occidentali. Astreas scrisse fra l'altro: «Puoi appena immaginare, mio caro vecchio amico, le condizioni adesso esistenti in quel piccolo regno, da quando la regina Taramis ha accolto Constantius e i suoi mercenari, un evento che ti descrissi brevemente nella mia ultima frettolosa lettera. Da allora sono trascorsi 7 mesi, durante i quali sembra quasi che il diavolo in persona si sia scatenato su questo sfortunato regno. Taramis sembra essere impazzita. Mentre prima era rinomata per le sue virtù, giustizia e tranquillità, ora è conosciuta per le qualità esattamente opposte a quelle che ti ho appena enumerato. La sua vita privata è scandalosa. O forse il termine privata non è quello corretto, dato che la regina non compie alcun tentativo di nascondere la dissolutezza della sua corte. Indugia costantemente alle più infami gozzoviglie alle quali le sfortunate dame della corte sono costrette ad unirsi, sia le giovani donne sposate sia le vergini. La regina stessa non si è affatto preoccupata di sposare il suo amante Constantius, che siede sul trono accanto a lei e regna come suo regale consorte, e i suoi ufficiali seguono il suo esempio e non esitano a corrompere qualunque donna essi desiderino, incuranti del rango o della posizione sociale. Questo regno derelitto geme sotto tasse esorbitanti, le fattorie sono spogliate fino all'osso e i mercanti vanno in giro vestiti di stracci, che è tutto ciò che è rimasto loro dopo il passaggio degli esattori delle tasse. No, si possono considerare fortunati se riescono a fuggire con la pelle intatta. Percepisco la tua incredulità, mio buon Alcemide. Temi che stia esagerando le condizioni a Cauran. Tali situazioni sarebbero impensabili in qualunque paese occidentale, lo ammetto. Però devi capire l'enorme differenza che esiste tra l'Est e l'Ovest, specialmente in questa parte dell'Oriente. In primo luogo, Cauran è un regno di modeste dimensioni, uno dei molti principati che un tempo formavano la parte orientale dell'impero di Kot e che in seguito riottennero l'indipendenza che era loro in un'epoca precedente. Questa parte del mondo è formata da tali piccoli regni, nulla se confrontati con i grandi regni dell'Occidente o i grandi sultanati dell'Estremo Oriente, ma sono importanti perché controllano le vie carovaniere e le ricchezze che trasportano. Cauran è il principato più a sud-est, confinante con i deserti dello scemo orientale. La città di Cauran è l'unica città di una certa importanza nel regno e si trova in vista del fiume che separa la prateria dal deserto sabbioso, come una torre di guardia a sorveglianza delle terre fertili dietro di essa. La terra è così ricca che fornisce dai 3 ai 4 raccolti l'anno e le pianure a nord e ad ovest della città sono cosparse di villaggi. Per qualcuno avvezzo alle grandi piantagioni e alle fattorie dell'Occidente, è strano osservare questi piccoli campi e vigneti. Eppure un gran fiume di grano e di frutti scorre da essi come da una cornucopia. Gli abitanti dei villaggi sono agricoltori e null'altro. Appartengono a una razza aborigena mista, sono pacifici, incapaci di proteggersi da soli ed è anche vietato loro avere delle armi. Dipendono completamente dai soldati della città per la protezione e nelle attuali condizioni sono completamente indifesi. Così la selvaggia rivolta delle zone rurali, che sarebbe una certezza in qualunque nazione occidentale, qui è impossibile. Essi lavorano supinamente sotto il pugno di ferro di Constantius e i suoi scemiti dalla barba nera percorrono incessantemente i campi con le fruste in mano, come i negrieri degli schiavi che lavorano nelle piantagioni della zingara meridionale. E neppure la gente della città vive in condizioni migliori. Le loro ricchezze vengono sottratte, le loro figlie più belle prese per soddisfare gli insaziabili appetiti di Constantius e dei suoi mercenari. Questi uomini sono completamente privi di pietà o di compassione, possedendo tutte le caratteristiche che i nostri eserciti hanno imparato ad aborrire nelle guerre combattute contro gli alleati scemiti di Argos. Crudeltà disumane, lussuria e ferocia bestiale. Le genti della città appartengono alla casta dominante di Cauran, principalmente i boriani, valorosi e battaglieri. Però il tradimento della loro regina li ha consegnati nelle mani dei loro oppositori. Gli scemiti rappresentano ora l'unica forza armata a Cauran e le punizioni più diaboliche vengono inflitte a qualunque caurita si trovi in possesso di armi. Una sistematica persecuzione per distruggere i giovani maschi di Cauran, capaci di imbracciare le armi, è stata selvaggiamente attuata. Molti sono stati brutalmente massacrati, altri venduti come schiavi ai Taruniani. A migliaia sono fuggiti dal regno e sono entrati al servizio di altri governanti, oppure sono diventati fuorilegge, radunandosi in numerose bande lungo i confini. Al momento esiste anche una qualche possibilità di invasione dal deserto, abitato da tribù di nomadi scemiti. I mercenari di Constantius sono uomini provenienti dalle città scemite dell'Occidente, Pelishtim, Anakim, Hakkarim, e sono ardentemente odiati dagli Zuagiri e dalle altre tribù nomadi. Come sai, mio buon Alcemide, le nazioni di questi barbari sono divise dalle praterie che si stendono fino al lontano oceano e nelle quali sorgono le città, e dai deserti orientali, dove gli snelli nomadi hanno il controllo. Tra gli abitanti della città e quelli dei deserti è in corso una guerra continua. Gli Zuagiri hanno combattuto e depredato Cauran per secoli senza successo, ma essi non sopportano la sua conquista da parte dei loro cugini d'Occidente. Si mormora che il loro naturale antagonismo sia pure fomentato dall'uomo che un tempo era capitano delle guardie della regina e che in qualche modo sfuggito all'odio di Constantius, che lo aveva crocifisso, fuggì per unirsi ai nomadi. Si dice che si chiami Conan, ed è egli stesso un barbaro, uno di quei tenebrosi cimmeri la cui ferocia i nostri soldati hanno più di una volta imparato a conoscere a caro prezzo. Si dice che sia diventato il braccio destro di Holger Vladislav, l'avventuriero cosacco che, sceso dalle steppe settentrionali, si è proclamato capo di una banda di Zuagiri. Ci sono anche notizie che questa banda è aumentata considerevolmente di numero negli ultimi mesi e che Holger, spinto senza dubbio da questo cimmero, stia addirittura considerando l'idea di una scorreria a Cauran. Non potrebbe essere altro che una scorreria, perché gli Zuagiri sono privi di macchine d'assedio o delle conoscenze addirittura per assediare una città. Ed è stato più volte provato nel passato che i nomadi, con le loro formazioni lasche, anzi la loro mancanza di formazioni, non sono dei validi avversari per i guerrieri disciplinati e bene armati delle città scemite. I nativi di Cauran potrebbero forse accogliere benevolmente tale conquista, dato che i nomadi non potrebbero trattarli peggio dei loro attuali padroni, e persino lo sterminio totale sarebbe preferibile alle sofferenze che devono sopportare. Però sono così intimoriti ed inermi che non potrebbero fornire alcun aiuto agli invasori. La loro situazione è disperata. Taramis, apparentemente posseduta da un demone, non si ferma di fronte a nulla. Ha abolito l'adorazione di Ishtar e ha trasformato il suo tempio in un covo di idolatria. Ha distrutto l'immagine d'avorio della dea che questi iboriani dell'est adorano e che, sebbene inferiore alla vera religione di Mitra, che noi nazioni occidentali riconosciamo, è superiore all'adorazione demoniaca degli scemiti. E ha riempito il tempio di Ishtar di immagini oscene di ogni tipo, dei e dee della notte ritratti in tutte le pose più ardite e perverse e con tutte le ributtanti caratteristiche che una mente degenerata può concepire. Molte di queste immagini possono essere identificate come orrende divinità scemite, turaniane, vendiane e dei Kitai, ma altre sono reminiscenze di un'antichità orribile semisepolta, immonde figure dimenticate, eccetto che nelle più oscure leggende. Dove la regina abbia ottenuto tali conoscenze, io non oso neppure tentare di indovinare. Ha ripristinato i sacrifici umani, e da quando si è accoppiata con Constantius, non meno di 500 uomini, donne e bambini sono stati immolati. Alcuni di questi sono morti sull'altare che ha posto nel tempio, con la regina stessa ad impugnare il coltello sacrificale. Ma la maggior parte hanno incontrato un destino ancora più terribile. Taramis ha sistemato qualche tipo di mostro in una cripta del tempio. Cosa sia e da dove venga nessuno lo sa. Però poco dopo che lei ebbe soffocato la disperata rivolta dei suoi soldati contro Constantius, trascorse una notte intera nel tempio sconsacrato da sola, eccetto forse una dozzina di prigionieri legati. E la gente, tremante, vide un fumo spesso e maleodorante levarsi dalla cupola e udì per tutta la notte il frenetico cantilenare della regina e le grida agonizzanti dei suoi prigionieri torturati. Verso l'alba, un'altra voce però si mescolò a quei suoni, stridente, gracchiante, inumana, che gelò il sangue di tutti quelli che l'udirono. Dopo qualche ora, Taramis uscì barcollando dal tempio, gli occhi ardenti di demoniaco trionfo. I prigionieri non furono mai più visti e neppure fu più udita la voce gracchiante. Però c'è una stanza nel tempio nel quale nessuno si avventura mai, se non la regina conducendo davanti a sé un sacrificio umano. E quella vittima non viene mai più vista. Tutti sanno che in quella tenebrosa camera si annida qualche mostro proveniente dalle nere notti del passato che divora gli umani urlanti che Taramis porta con sé. Non posso più pensare a lei come una donna mortale, ma come a una diavolessa rabbiosa, rannicchiata nel suo nascondiglio lordo di sangue, in mezzo alle ossa e ai resti delle sue vittime con dita arrossate e irte di artigli. Che gli dèi le permettano di seguire il suo orribile cammino senza opporsi. Beh, questo scuote la mia fede nella giustizia divina. Quando confronto la sua attuale condotta con quella che mostrava quando giunse a Cauran per la prima volta 7 mesi fa, sono confuso e stupito, e quasi incline a credere quanto molti del popolo mormorano, che un demone abbia preso possesso del corpo di Taramis. Un giovane soldato di nome Valerius la pensa diversamente. Egli crede che una strega abbia assunto una forma identica a quella della dorata sovrana di Cauran. Egli ritiene che Taramis sia stata portata via di notte e nascosta in qualche sotterraneo, e che questo essere che governa al suo posto non sia altro che una strega. Valerius giura che troverà la vera regina se è ancora viva, ma io temo molto che anche lui sia caduto vittima della crudeltà di Constantius. Era implicato nella rivolta delle guardie del palazzo, fuggì e rimase nascosto per un certo tempo, rifiutandosi testardamente di cercare la salvezza oltre i confini di Cauran. E fu durante questo periodo che lo incontrai e che mi narrò le sue convinzioni. Però adesso Valerius è sparito, così come è successo ad altri, sul cui destino è meglio non congetturare. E io temo che sia stato arrestato dalle spie di Constantius. Ora, amico mio, devo concludere questa lettera e farla uscire dalla città grazie a un veloce piccione viaggiatore che la porterà nel luogo dove l'ho acquistato, ai confini di Kot. Da lì, grazie ai cavalieri e carovane di cammelli, giungerà infine a te. Devo sbrigarmi prima dell'alba. È tardi e le stelle brillano bianche sui tetti verdeggianti di Cauran. Un silenzio da brividi avvolge la città, un silenzio nel quale odo il rullo di un sordo tamburo provenire dal tempio lontano. Senza dubbio, Taramis è là a preparare altre diavolerie. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo Store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Però il saggio si sbagliava nelle sue congetture riguardo alla sorte della donna di nome Taramis. La ragazza, che il mondo conosceva come regina di Cauran, si trovava in una segreta, illuminata solo da una torcia lingueggiante che giocava sui suoi lineamenti, facendo risaltare la diabolica crudeltà del suo bellissimo aspetto. Sulla nuda pietra, davanti a lei, era accucciata una figura, la cui nudità era appena coperta da laceri stracci. Salomè toccò sdegnosamente con la punta rovesciata del suo sandalo dorato quella figura e sorrise vendicativamente quando la sua vittima si allontanò rannicchiandosi ancora di più. «Non apprezzi le mie carezze, dolce sorella?» Taramis era ancora bellissima nonostante gli stracci, la prigionia e le torture di 7 orribili mesi. Non replicò agli insulti della sorella, ma chinò il capo come una persona avvezza a essere sbeffeggiata. Questa rassegnazione non piacque a Salomè. Si morse il labbro vermiglio e batté la punta del piede sul pavimento, mentre si accigliava di fronte alla figura passiva. Salomè indossava le splendide vesti barbariche di una donna di Shushan. I gioielli luccicavano alla luce della torcia sui suoi sandali dorati, sul corpetto d'oro e sulle sottili catene che lo sostenevano. Cavigliere d'oro tintinnavano mentre si muoveva, braccialetti ingioiellati le ornavano le braccia nude. La sua alta acconciatura era quella di una donna scemita, e orecchini di giada pendevano da cerchi dorati alle sue orecchie, mandando ampie scintille ad ogni impaziente movimento della testa orgogliosa. Una cintura tempestata di gemme sosteneva una gonna di seta così trasparente che dimostrava una cinica derisione delle convenzioni. Sospeso alle spalle e cadente sulla schiena pendeva un mantello rosso scuro, gettato con noncuranza nell'incavo di un braccio e sul fagotto che portava in braccio. Salomè si chinò improvvisamente e con la mano libera afferrò i capelli arruffati della sorella, obbligando la testa della ragazza a fissare i suoi occhi. Taramis affrontò quello sguardo feroce senza scomporsi. «Non sei così pronta con le lacrime come una volta, cara sorella», borbottò la strega. «Non mi strapperai altre lacrime», rispose Taramis. «Troppo spesso ti sei divertita di fronte allo spettacolo della regina di Cauran che si inghiozzava implorando pietà in ginocchio. So che mi hai risparmiata solo per tormentarmi, che è per questo che hai limitato le tue torture a quei tormenti che non uccidono o sfigurano in maniera permanente. Però non ti temo più. Mi hai strappato le ultime vestigia di speranza, paura e vergogna. Uccidimi e falla finita, perché ho versato la mia ultima lacrima per il tuo divertimento. Tu, demonio dell'inferno! Ti vanti troppo, cara sorella», miagolò Salomè. «Fino ad ora ho fatto soffrire solo il tuo bel corpo. Ho schiacciato solo il tuo orgoglio e la tua stima. Ti dimentichi che, a differenza di me, sei capace di soffrire mentalmente. L'ho osservato quando ti ho intrattenuta con storie riguardanti le commedie che ho inscenato con alcuni dei tuoi stupidi sudditi. Però questa volta ho portato prove più vivide di quelle farse. Sapevi che Crallides, il tuo fedele cancelliere, è tornato di nascosto da Turan ed è stato catturato?» Taramis impallidì. Cosa gli avete fatto?» Per risposta, Salomè estrasse il misterioso fagotto da sotto il mantello, scosse via il drappo di seta e tenne sollevata la testa di un giovane, i lineamenti congelati in uno spasmo, come se la morte fosse sopraggiunta nel mezzo di un'agonia disumana. Taramis strillò come se una lama le avesse trapassato il cuore. «Oh, Ishtar Crallides!» «Sì, stava cercando di sollevare il popolo contro di me, povero sciocco, dicendo loro che Conan affermò la verità quando disse che non ero Taramis. Come potrebbe il popolo sollevarsi contro i scemiti del falco, con ramoscelli e sassolini? Boh! I cani stanno divorando il suo corpo decapitato nella piazza del mercato e questa carogna sarà gettata a marcire nelle fogne. Allora, sorella!» Si fermò, sorridendo verso la sua vittima. «Hai scoperto che hai ancora lacrime da versare? Bene, ho riservato il tormento mentale per ultimo. D'ora in avanti ti mostrerò molte scene come questa!» Con la testa mozzata in mano alla luce della torcia, Salomè non sembrava affatto un essere nato da una femmina umana, nonostante la sua terribile bellezza. Taramis non la guardò. Il suo viso era prostrato sul pavimento melmoso, il suo corpo snello scosso dai singulti di dolore, mentre batteva i pugni serrati contro le pietre. Salomè si avviò noncurante verso la porta, le cavigliere tintinnanti ad ogni passo, gli orecchini luccicanti nel bagliore della torcia. Qualche istante dopo, Salomè uscì da una porta sotto un tozzo arco che conduceva ad un cortile, che a sua volta si apriva su un corridoio tortuoso. Un uomo che si trovava là si voltò verso la donna, un gigante scemita dagli occhi torvi e dalle spalle taurine, una grande barba nera ricadente sul possente petto ricoperto da una cotta argentata. «Ah, pianto!» La sua voce era come quella di un toro, profonda, bassa e tempestosa. Era il generale dei mercenari, uno dei pochi tra gli uomini di Constantius che conosceva il segreto della regina di Cauran. Sì, Cumbanigash. Ci sono intere parti della sua sensibilità che non ho ancora toccato. Quando i sensi di qualcuno sono attenuati dalla continua lacerazione, io scopro un nuovo, più sensibile punto. Qui, cane! Una figura zoppicante e tremante, avvolta da stracci, sporco e dai capelli unti, si avvicinò, uno dei mendicanti che dormivano nei vicoli e nei cortili. Salomè gli gettò la testa. Poi il mendicante si allontanò dolorosamente. «Perché continuate con questa commedia?» bofonchiò Cumbanigash. «Siete così saldamente insediata sul trono che nessuno vi può scalzare. Cosa potrebbe accadere se questi sciocchi caurani conoscessero la verità? Non possono fare nulla! Proclamate la vostra vera identità, mostrategli la loro amata ex regina e tagliatele la testa sulla pubblica piazza!» «Non ancora, mio buon Cumbanigash.» La porta dell'arco si richiuse sulle dure parole di Salomè e i tempestosi riverberi di Cumbanigash. Il mendicante muto si accucciò nel cortile e non c'era nessuno nei paraggi che potesse osservare le mani che reggevano la testa mozzata fremere fortemente. Mani muscolose e abbronzate, stranamente congruenti con il corpo deforme e gli abiti sporchi. «Lo sapevo!» fu un fiero mormorio vibrante appena udibile. «Taramis vive! Oh, Crallides! Il tuo martirio non è stato invano! L'hanno rinchiusa in quella segreta! Oh, Ishtar! Se ami i veri uomini, adesso aiutami!» Soluzioni esagerate. Buongiorno, sono Marco Quercia, falegname. Vi contatto perché le tasse mi martellano. Il carico fiscale è esagerato. Alleggeriscilo con i buoni pasto ticket restaurant Edred, 100% deducibili per aziende e semplici da attivare. E poi li usi in tutta Italia, anche per la spesa e il food delivery. Vai su ticketrestaurant.it. Esageratamente Edred. Olgerd Vladislav riempì il suo calice ingioiellato con vino rosso da una brocca dorata e spinse il recipiente sul tavolo d'ebano verso Conan il cimmero. L'abbigliamento di Olgerd avrebbe soddisfatto la vanità di qualunque hetman zaporascano. La sua calat era di seta bianca con perle cucite sul petto. Stretta in vita da una cintura bacaoyot, la camicia metteva in mostra gli ampi pantaloni di seta, infilati in corti stivali di morbida pelle verde, adornati da fili d'oro. Sul capo indossava un turbante di seta verde, avvolto attorno a un elmetto a punta cisellato d'oro. La sua unica arma era un coltello Cirkis, dall'ampia curvatura in un fodero d'avorio stretto alto sul fianco sinistro, alla maniera dei cozacchi. All'indietro sulla sua sedia dorata, con intagli di aquile, Olgerd allungò le gambe davanti a sé e inghiottì rumorosamente il vino frizzante. Paragonato al suo splendore, l'enorme cimmero di fronte a lui offriva un forte contrasto con la sua capigliatura nera, abbronzato dal volto solcato da cicatrici e ardenti occhi azzurri. Indossava una cotta di maglia nera e l'unico orpello che portava era l'ampia fibbia d'oro della cintura che sosteneva la spada nel consunto fodero di pelle. Erano da soli nella tenda dalle pareti di seta, ornata di arazzi in tessuti d'oro e cosparsa da ricchi tappeti e cuscini di seta, il bottino preso dalle carovane. Dall'esterno giungeva un basso e incessante mormorio, il suono che accompagna sempre una grande massa d'uomini in un campo o in altre situazioni. Ogni tanto uno sbuffo di vento del deserto faceva stormire le foglie delle palme. «Oggi all'ombra, domani al sole!» sentenziò Holgerd, allentando un poco la fusciacca Cremisi e prendendo nuovamente la caraffa del vino. «Così va la vita! Un tempo ero Hetman degli Zaporoska! Ora sono un capo del deserto! 7 mesi fa tu eri appeso una croce fuori Kauran! Adesso sei luogotenente del più potente predone tra Turan e le praterie occidentali! Dovresti essermi grato!» «Per aver riconosciuto la mia utilità!» Conan rise e sollevò la caraffa. «Quando permetti a un uomo di raggiungere certe posizioni, si può essere certi che trarrai profitto dal suo avanzamento. Mi sono meritato ogni cosa che ho vinto con il mio sangue e il mio sudore!» Conan si guardò le cicatrici sui palmi delle mani. C'erano delle cicatrici anche sul suo corpo, cicatrici che non erano presenti 7 mesi prima. «Combatti come un reggimento di diavoli! Però non metterti in testa di avere qualcosa a che fare con le nuove reclute che si sono affollate per unirsi a noi! È stato il nostro successo nelle razzie, guidato dal mio acume, che li ha fatti arrivare! Questi nomadi cercano sempre un capo di successo da seguire, ed essi hanno più fede in uno straniero che in uno della loro stessa razza! Non c'è limite a ciò che possiamo fare! Adesso abbiamo 11.000 uomini! Tra un anno potremo averne il triplo! Finora ci siamo accontentati di razzie contro gli avamposti turaniani e le città-stato dell'Ovest. Ma con 30 o 40.000 uomini non razzieremo più! Invaderemo, conquisteremo e ci insedieremo noi stessi come dominatori! Diverrò imperatore di Shem! E tu sarai il mio visir, fin tanto che seguirai senza discutere i miei ordini! Nel frattempo credo che andremo verso est e assaliremo quell'avamposto turaniano Vesek, dove le carovane pagano il tributo. Conan scosse il capo. Non credo. Holger lo fissò. Il suo irascibile temperamento era visibilmente irritato. Cosa vuoi dire? Tu non credi? Penso io per questo esercito. Ci sono uomini a sufficienza in questa banda adesso per il mio scopo e sono stufo di aspettare. Devo sistemare una faccenda. Ah! Holgerd si accigliò e inghiottì il vino, poi sorrise a denti stretti. Stai ancora pensando a quella croce, eh? Beh, mi piace uno che sa odiare così. Però quello può aspettare. Una volta mi dicesti che mi avresti aiutato nella cattura di Kauran. Sì, però fu prima che cominciassi a vedere tutte le possibilità della nostra potenza. Stavo solo pensando al sacco della città. Io non voglio sprecare la nostra forza in maniera poco favorevole. Kauran è una noce troppo forte per noi da schiacciare adesso. Forse tra un anno. Entro la settimana, rispose Conan, e il cozzaco rimase di stucco di fronte alla decisione della sua voce. Ascolta, anche se fossi disposto a sprecare uomini in un simile folle tentativo, cosa potresti attenderti? Credi che questi lupi siano in grado di mettere sotto assedio e di prendere una città come Kauran? Non ci sarà alcun assedio. Io so come attirare Constantius nella pianura. Dopodiché? Strillò Holgerd con un'imprecazione. Nello scambio di frecce i nostri cavalieri avrebbero la peggio, perché l'armatura degli Asciuri è migliore. E quando si verrà al corpo a corpo, le loro schiere serrate di armigeri addestrati fenderanno le nostre deboli linee, disperdendo gli uomini come pula al vento. No, se ci fossero 3.000 disperati cavalieri boriani a combattere in un solido cuneo, come quello che posso insegnare loro, rispose Conan. E dove ti procureresti 3.000 boriani? Chiese Holgerd con molto sarcasmo. Li farai comparire dall'aria? Li ho già, rispose imperturbabile il cimmero. 3.000 uomini di Kauran sono accampati nell'oase di Akrel, in attesa dei miei ordini. Cosa? Holgerd lo fissò come un lupo stupito. Certo, uomini che sono sfuggiti alla tirannia di Constantius. La maggior parte di loro ha vissuto come fuorilegge nel deserto a est di Kauran e sono magri e disperati come tigri mangiatrici di uomini. Uno di loro varrà almeno 3 di quei rammolliti mercenari. Ci vuole l'oppressione e la sofferenza per dare coraggio agli uomini e mettere il fuoco dell'inferno nei loro muscoli. Erano divisi in piccole bande. Tutto ciò di cui avevano bisogno era un capo. Credettero alla parola che inviai loro con i miei cavalieri e si radunarono nell'oasi, mettendosi subito tutti a mia disposizione. E tutto ciò a mia insaputa! Una luce feroce si andava accendendo negli occhi di Holgerd. La sua mano si mosse verso l'arma alla cintura. Era me che desideravano seguire, non te! E cosa hai detto a quegli sbandati per ottenere la loro alleanza? C'era un tono minaccioso nella voce di Holgerd. Dissi loro che avrei usato l'orda dei lupi del deserto per aiutarli a distruggere Constantius e restituire Cauran nelle mani dei suoi cittadini. Pazzo! Mormorò Holgerd. Ti ritieni già un capo? I due uomini erano in piedi, fronteggiandosi attraverso il tavolo d'ebano. Luci diaboliche danzavano nei freddi occhi grigi di Holgerd. Un cupo sorriso sulle dure labbra del cimmero. «Ti farò appendere a due palme e squartare!» disse con voce calma il cosaco. «Chiama gli uomini e ordinaglielo!» lo sfidò Conan. «Vedi se ti obbediranno!» Snudando i denti in un ringhio, Holgerd sollevò la mano. Poi si fermò. C'era qualcosa nella sicurezza sul volto scuro del cimmero che lo scosse. I suoi occhi iniziarono ad ardere come quelli di un lupo. «Oh, feccia delle colline occidentali! Hai osato cercare di minare il mio potere!» «Non ne avevo bisogno. Ho mentito quando dissi che non avevo nulla a che fare con l'arrivo delle nuove reclute. Il merito è tutto mio. Hanno seguito i tuoi ordini, ma hanno combattuto per me. Non c'è spazio per due capi tra gli zuagiri. Loro sanno che io sono il più forte. Li capisco meglio di te e loro me, perché anche io sono un barbaro come loro». «E cosa diranno quando chiederai loro di combattere per i Caurani?» chiese sardonicamente Holgerd. «Mi seguiranno. Prometterò loro una carovana d'oro dal palazzo. Cauran sarà disposta a pagare quella cifra per liberarsi di Constantius. Dopodiché li guiderò contro i Taruniani come hai predisposto. Vogliono bottino e combatteranno contro Constantius come contro chiunque altro». Negli occhi di Holgerd crebbe il riconoscimento della sconfitta. Nel suo rosso sogno di un impero aveva dimenticato di accorgersi di ciò che avveniva attorno a sé. Eventi e situazioni che in precedenza erano sembrati privi di significato ora sfrecciavano nella sua mente nel loro pieno significato, portandolo a comprendere che Conan non parlava solo per vantarsi. La gigantesca figura in cotta di maglia nera davanti a lui era il vero capo degli zuagiri. «No, se tu morissi!» bofonchiò Holgerd e la sua mano volò verso l'elsa del pugnale. Però, veloce come la zampata di un leone, il braccio di Conan attraversò il tavolo e le sue dita si chiusero attorno all'avambraccio di Holgerd. Ci fu lo schianto di ossa spezzate e per un tesissimo istante la scena rimase immobile. Gli uomini si fronteggiavano immobili come statue, il sudore che iniziava a colare dalla fronte di Holgerd. Conan rise, senza allentare la presa sul braccio rotto. «Sei degno di vivere, Holgerd?» Il suo sorriso non mutò quando gli spessi muscoli si gonfiarono lungo l'avambraccio e le dita affondarono nella carne tremante del cosaco. Si udì il suono di ossa rotte sfregare l'una contro l'altra e il viso di Holgerd divenne colore della cenere. Il sangue colò dalle sue labbra dove erano affondati i denti, ma l'uomo non emise alcun suono. «Ti concedo la vita, Holgerd, così come tu la concedesti a me, sebbene mi abbia tirato giù dalla croce per i tuoi scopi. Allora mi sottoponesti a una prova durissima. Tu non saresti riuscito a sopportarla, e neppure nessun altro, se non un barbaro dell'Occidente. Ora prendi il tuo cavallo e vattene. È legato dietro la tenda, e nelle sacche della sella ci sono cibo e acqua. Nessuno ti vedrà partire, ma fai in fretta. Nel deserto non c'è spazio per un capo caduto. Se i guerrieri ti vedessero menomato e deposto, non ti lascerebbero mai lasciare il campo vivo». Holgerd non replicò. Lentamente, senza dire una parola, si girò e attraversò la tenda, uscendo attraverso l'apertura. Senza parlare, salì in sella al grande stallone bianco che si trovava impastoiato all'ombra di un'ampia palma. E ancora, senza dire una parola, con il braccio rotto infilato sotto la calat, fece voltare il cavallo e si avviò verso il deserto, uscendo dalla vita del popolo degli Zuagiri. Dentro la tenda, Conan svuotò la brocca del vino e schioccò le labbra con gusto. Scaraventando in un angolo il recipiente vuoto, afferrò la cintura e uscì a grandi passi dall'ingresso frontale della tenda, fermandosi un momento per permettere al suo sguardo di passare in rassegna le file di tende di pelli di cammello che si stendevano davanti a lui e le figure vestite di bianco che si muovevano tra le tende discutendo, cantando, riparando finimenti o affilando tulwars. Conan alzò la sua voce simile ad un tuono che raggiunse i confini estremi dell'accampamento. «Ehi, voi cani! Aguzzate le orecchie, ascoltate! Radunatevi qui! Ho qualcosa da dirvi!» Cinque. In una stanza di una torre nei pressi delle mura della città, un gruppo di uomini ascoltava attentamente le parole di uno di loro. Erano tutti giovani, ma forti e muscolosi, dal portamento che caratterizza solo gli uomini resi disperati dalle avversità. Indossavano cotte di maglia e consunte giubbe di cuoio. Spade pendevano dalle loro cinture. «Sapevo che Conan aveva detto la verità quando disse che non si trattava di Taramis!» esclamò colui che parlava. «Per mesi mi sono aggirato nei pressi del palazzo recitando la parte del mendicante sordo. Alla fine appresi ciò che avevo supposto, che la nostra regina era prigioniera nelle segrete contigue al palazzo. Colsi allora l'opportunità e catturai un carceriere scemita. Lo stordii quando lasciò il cortile una notte. Lo trascinai in una cantina nelle vicinanze e lo interrogai. Prima di morire mi disse ciò che vi ho appena detto e che abbiamo sospettato per tutto questo tempo: che la donna che governa Cauran è una strega, Salomè. Taramis, mi disse il carceriere, è imprigionata nella segreta più profonda. Questa invasione degli Zuagiri ci fornisce l'opportunità che cercavamo. Cosa Conan abbia in mente di fare, non so dirlo. Forse lui cerca semplicemente di vendicarsi di Constantius. Forse ha intenzione di saccheggiare la città e distruggerla. È un barbaro e nessuno è in grado di capire le loro menti. Perciò questo è ciò che dobbiamo fare. Salvare Taramis mentre infuria la battaglia. Constantius marcerà nella pianura per dare battaglia. Già adesso i suoi uomini stanno montando a cavallo. Agisce così perché non c'è cibo a sufficienza in città per sostenere un assedio. Conan è sbucato dal deserto così all'improvviso che non c'è stato tempo di far arrivare i rifornimenti. E il Cimmero è pronto per un assedio. Gli esploratori hanno riferito che gli Zuagiri hanno macchine da guerra, costruite senza dubbio secondo le istruzioni di Conan, che imparò tutte le arti della guerra dalle nazioni occidentali. Constantius non desidera certo un lungo assedio, così marcerà con i suoi guerrieri nella pianura, dove crede di disperdere le forze di Conan in un sol colpo. Lascerà in città solo le poche centinaia di uomini che saranno tutti sulle mura e nelle torri che controllano i cancelli. La prigione, quindi, rimarrà quasi del tutto sguarnita. Quando avremo liberato Taramis, la nostra mossa successiva dipenderà dalle circostanze. Se vincesse Conan, dobbiamo mostrare Taramis al popolo e ordinargli di insorgere. E lo faranno. Oh, certo che lo faranno, anche a mani nude. Loro sono in numero sufficiente a sopraffare gli scemiti rimasti in città e a chiudere i cancelli, sia contro i mercenari, sia contro i nomadi. Negli uni negli altri devono superare le mura. Poi tratteremo con Conan. È sempre stato fedele a Taramis. Se conoscerà la verità e la regina si appellerà a lui, credo che risparmierà la città. Se cosa più probabile, prevarrà Constantius e Conan verrà sconfitto, dobbiamo uscire di nascosto dalla città con la regina a cercare la salvezza nella fuga. È tutto chiaro? Gli altri risposero all'unisono. Allora sguainiamo le lame! affidando le nostre anime a Ishtar e avviamoci verso la prigione, perché i mercenari stanno già marciando attraverso il cancello meridionale. Era vero. La luce dell'alba si rifletteva sugli elmi a punta, sulle brillanti armature dei cavalieri che fluivano in file ordinate attraverso l'ampio arco del cancello. Sarebbe stata una battaglia di cavalleria, cosa possibile solo nelle terre dell'Oriente. I cavalieri fluivano attraverso il cancello come un fiume d'acciaio, severe figure in cotta nera e argento, dalle barbe ricce e i nasi adunchi, e nei loro occhi inesorabili brillava il fatalismo della loro razza, la totale mancanza di dubbio o di pietà. Le strade e le mura erano assiepate da folle di persone che osservavano silenziose quei guerrieri di una razza aliena uscire per difendere la loro città natale. Non si udiva alcun suono. Osservavano ottusamente, senza espressione, gente magra in abiti laceri, i cappelli in mano. Da una torre che dominava l'ampia strada che conduceva al cancello meridionale, Salomè si cullava su un divano di velluto, osservando cinicamente Constantius mentre si sistemava il cinturone della spada attorno ai fianchi asciutti e calzava i guanti. Erano soli nella stanza. Fuori, il clangore ritmico dei finimenti e il suono degli zoccoli dei cavalli passava attraverso le finestre bordate d'oro. «Prima di sera», sentenziò Constantius, lisciandosi un baffo sottile, «avrai alcuni prigionieri per sfamare il demone del tempio. Non si è stufato di morbida carne di cittadini? Forse apprezzerai i muscoli induriti di un uomo del deserto. Questa è una delle ragioni per cui sto uscendo a incontrarlo. Quel cane ha combattuto in Occidente e conosce l'arte dell'assedio. I miei esploratori hanno avuto alcuni problemi nell'avvicinarsi alle sue colonne, perché i suoi predoni hanno occhi di falco. Però si sono avvicinati a sufficienza per vedere quelle macchine che sta trasportando con i carri trainati da cammelli. Catapulte, arieti, baliste, mangani per Ishtar. Deve aver fatto lavorare 10.000 uomini giorno e notte per un mese. Dove ha preso il materiale per la loro costruzione? È qualcosa che va oltre la mia immaginazione. Forse ha stipulato un patto con i Turuniani e ottiene le scorte da loro. Comunque non gli serviranno a niente. Ho combattuto altre volte questi lupi del deserto. Uno scambio di frecce per un po', nel quale le armature dei miei guerrieri li proteggeranno. Poi una carica e i miei squadroni attraverseranno quello sciame di nomadi. Ritorneranno indietro attraversandolo una seconda volta e lo disperderanno ai quattro venti. Ritornerò dal cancello meridionale prima del calare del sole con centinaia di prigionieri nudi barcollanti dietro la coda del mio cavallo. Avremo una festa questa notte nella piazza grande. I miei soldati amano sferzare a morte i nemici. Avremo uno scuoiamento di massa e faremo assistere queste pappe molle di cittadini. Per quanto riguarda Conan, mi procurerà un immenso piacere se riusciremo a catturarlo vivo, impalarlo sui gradini del palazzo. Scuoiane quanti ne vuoi, rispose Salomè con indifferenza. Mi piacerebbe avere un abito di pelle umana. Però mi devi dare almeno 100 prigionieri, per l'altare e per Taug. Sarà fatto, rispose Constantius con la mano guantata, lisciandosi all'indietro i capelli sottili dall'alta fronte calva, abbronzata dal sole. Per la vittoria e per l'onore di Taramis, disse sardonicamente, e mettendosi sotto braccio l'elmo con la visiera, alzò una mano per salutare e uscì rumorosamente dalla camera. La sua voce echeggiò aspramente acuta mentre dava ordini ai suoi ufficiali. Salomè si reclinò sul divano, sbadigliò, si stiracchiò come un'agile pantera e chiamò «Zang!». Un sacerdote dal piede silenzioso e dai lineamenti simili a pergamena ingiallita tesa sopra un teschio entrò senza far rumore. Salomè si girò verso un piedistallo d'avorio sul quale si trovavano due globi di cristallo e, prendendo il più piccolo, consegnò la sfera luccicante al sacerdote. «Vai con Constantius», disse la strega. «Portami notizie della battaglia, vai!» L'uomo dal viso scheletrico si inchinò profondamente e, nascondendo il globo sotto il mantello scuro, si affrettò fuori dalla stanza. Fuori, in città, non si udiva alcun suono tranne il clangore degli zoccoli e dopo un po' il rumore del cancello che si richiudeva. Salomè salì un'ampia scala di marmo che conduceva al terrazzo coperto e dalla merlatura di marmo che superava in altezza ogni altro edificio della città. Le strade erano deserte, la grande piazza di fronte al palazzo vuota. In tempi normali la gente evitava il tenebroso tempio che sorgeva sul lato opposto della piazza, ma ora la città sembrava morta. Solo al cancello meridionale e sui tetti che lo fronteggiavano c'era qualche segno di vita. Là le persone si erano ammassate fitte, non facevano alcuna dimostrazione e non sapevano se sperare in una vittoria o in una sconfitta di Constantius. La vittoria avrebbe significato ulteriori miserie sotto il suo giogo intollerabile. La sconfitta avrebbe probabilmente significato il sacco della città e un fosco massacro. Nessuna parola era giunta da Conan. Non sapevano cosa attendersi da parte sua. Si ricordavano che era un barbaro. Gli squadroni dei mercenari si stavano muovendo nella pianura. In lontananza, appena oltrepassato il fiume, altre masse scure erano in movimento, appena riconoscibili come uomini a cavallo. Oggetti punteggiavano la riva opposta. Conan non aveva portato le sue macchine da guerra oltre il fiume, temendo apparentemente un attacco nel mezzo dell'attraversamento. Però aveva superato il fiume con tutta la sua cavalleria. Il sole si levò e strappò bagliori di fuoco dalle nere moltitudini. Gli squadroni della città iniziarono il galoppo. Un profondo ruggito raggiunse le orecchie della gente sulle mura. Le masse si unirono, si mescolarono. E anche a quella distanza si poteva vedere una confusione nella quale non si distingueva alcun dettaglio. Non si riuscivano a identificare cariche e controcariche. Sollevate dagli zoccoli, nuvole di polvere si levarono dalla pianura velando l'azione. Attraverso queste nubi turbinanti apparvero masse di cavalieri e lampeggiarono le lance, per poi scomparire. Salomè strinse le spalle e discese le scale. Il palazzo era silente. Tutti gli schiavi erano alle mura, fissando invano verso sud insieme ai cittadini. La strega entrò nella stanza dove aveva parlato con Constantius e si avvicinò al piedistallo, notando che il globo cristallino era offuscato, venato da strisce sanguigne. Si chinò sulla sfera, imprecando sottovoce. «Zang! Zang!» La foschia turbinò nella sfera, rivelandosi come gonfie nube di polvere, nelle quali nere figure correvano irriconoscibili. L'acciaio scintillava come folgore nella tenebra. Poi il viso di Zang comparve con stupefacente chiarezza. Era come se i grandi occhi fissassero Salomè. Sangue gocciolava da una ferita sul cranio. La pelle era grigia per la polvere bagnata di sudore. Le labbra si aprirono tremando. Ad altre orecchie diverse da quelle di Salomè sarebbe sembrato che il viso nella sfera di cristallo si contorcesse silenziosamente. Però il suono giunse alla strega chiaramente da quelle labbra cinere, come se il sacerdote si fosse trovato nella stessa stanza insieme a lei, invece che a miglia di distanza a gridare nel cristallo più piccolo. Solo gli dei delle tenebre conoscevano quale invisibile filamento magico legava insieme le due sfere scintillanti. «Salomè!» strillò la testa sanguinante. «Salomè!» «Ti ascolto!» gridò lei. «Parla! Come va la battaglia?» «La rovina è su di noi! Kauran è perduta! Ai! Il mio cavallo è stato abbattuto e non riesco a liberarmi! Gli uomini cadono attorno a me! Stanno morendo come mosche nelle loro armature argentate! Smettila di piagnucolare! Dimmi cosa è successo! Cavalcammo fino a raggiungere quei cani del deserto! E loro ci affrontarono! Le frecce volarono in nuvoli tra i due schieramenti! E i nomadi ondeggiarono! Constantius ordinò la carica! A fine combatte ci precipitammo contro di loro! Poi le masse dell'Orda si aprirono a destra e a sinistra e attraverso il varco si riversarono 3.000 cavalieri boriani la cui presenza non avevamo neppure sospettato. Uomini di Cauran, folli per l'odio. Grossi uomini con armature complete e cavalli massicci. In un solido cuneo di acciaio si abbatterono su di noi come un fulmine. Divisero nettamente le nostre schiere prima che ci rendessimo conto che ci erano addosso. E poi gli uomini del deserto sciamarono contro di noi su entrambi i fianchi. Hanno sventrato il nostro schieramento, ci hanno dispersi. È un trucco di quel diavolo di Conan. Le macchine da guerra sono false, semplici strutture di tronchi di palma e seta dipinta. Hanno ingannato i nostri esploratori che le videro da lontano. Un trucco per spingerci alla rovina. I nostri guerrieri fuggono. Kumbanigash è caduto! Conan lo ha ucciso! Non riesco a vedere Constantius! I Cauraniani spezzano le nostre schiere in fuga come leoni pazzi per il sangue e gli uomini del deserto ci imbottiscono di frecce! Io... Ah! Ci fu un guizzo, come di un lampo o di acciaio lucente. Uno spruzzo di sangue. Poi, improvvisamente, l'immagine svanì come una bolla di sapone. E Salomè si trovò a fissare una sfera di cristallo vuota che rifletteva solo i suoi lineamenti infuriati. Rimase perfettamente immobile per alcuni momenti, in piedi, a fissare nel vuoto. Poi batté le mani ed entrò un altro sacerdote dal cranio scheletrico, silenzioso e immobile quanto il primo. «Costantius è sconfitto!» disse Salomè rapidamente. «Siamo condannati!» Conan abbatterà i nostri cancelli entro un'ora. Se mi catturasse, non mi faccio illusioni su cosa mi posso aspettare. Però prima voglio essere certa che la mia maledetta sorella non ascenda più al trono. Seguimi. Qualunque cosa accada, daremo a Taug un buon banchetto. Mentre Salomè scendeva le scale e le gallerie del palazzo, udì una debole eco crescente provenire dalle mura lontane. La gente là radunata aveva compreso che la battaglia stava avvolgendo a sfavore di Constantius. Attraverso le nubi di polvere erano visibili le masse dei cavalieri che correvano verso la città. Il palazzo e la prigione erano collegati da una lunga galleria coperta, il cui tetto a volta sorgeva su cupe arcate. Affrettandosi lungo la galleria, la falsa regina e il suo schiavo superarono una pesante porta all'altra estremità che li introdusse nell'ingresso debolmente illuminato della prigione. Erano sboccati in un ampio corridoio, in un punto vicino a una scala di pietra che scendeva verso le tenebre. Salomè si ritrasse improvvisamente, imprecando. Nella semi-oscurità della sala giaceva una forma immobile. Un carceriere scemita, la corta barba rivolta verso il soffitto, perché la sua testa penzolava dal collo quasi mozzato. Quando voci ansimanti raggiunsero le orecchie della ragazza, lei arretrò tra le nere ombre di un arco, spingendo il sacerdote dietro di sé, con la mano che brancolava alla cintura. Sei. Fu la luce fumosa di una torcia che destò Taramis, regina di Cauran, dal sonno nel quale cercava l'oblio. Alzandosi con l'aiuto di una mano, si tirò indietro i capelli arruffati e socchiuse gli occhi per vedere, aspettandosi di incontrare le irridenti fattezze di Salomè, maligne per rinnovati tormenti. Invece un grido di pietà e di orrore le giunse alle orecchie. «Oh, mia regina!» Il suono fu così strano alle orecchie della donna che pensò di stare ancora sognando. Dietro la torcia riuscì a distinguere alcune figure, il luccichio dell'acciaio, poi cinque visi chini su di lei, non crudeli e dal naso adunco, ma lisci volti aquilini abbronzati dal sole. Si rannicchiò nei suoi stracci fissandoli stupefatta. Una delle figure balzò in avanti e si inginocchiò davanti a lei, le braccia tese supplichevolmente verso la donna. «Oh, Taramis! Grazie a Ishtar vi abbiamo trovato! Non vi ricordate di me, Valerius? Una volta le vostre stesse labbra mi hanno elogiato dopo la battaglia di Corveca!» «Valerius!» balbettò la regina. Improvvisamente le lacrime sgorgarono dai suoi occhi. «Oh, sto sognando! Deve essere qualche stregoneria di Salomè per tormentarmi!» «No!» Il grido risuonò con esultanza. «Sono i vostri veri vassalli venuti a salvarvi! Però dobbiamo sbrigarci, mia regina! Constantius sta combattendo nella pianura contro Conan, che ha fatto attraversare il fiume agli Zuagiri! Ma 300 scemiti presidiano ancora la città! Abbiamo ucciso il carceriere e preso le sue chiavi e non abbiamo visto altre guardie! Però dobbiamo andarcene, vi prego, venite!» Le gambe della regina cedettero, non per la debolezza, ma per l'emozione. Valerius la sollevò come se fosse una bambina e con il portatore di torcia che si affrettava davanti a loro lasciarono la segreta e risalirono una viscida scala di pietra. Questa sembrava salire eternamente, ma dopo poco emersero in un corridoio. Stavano superando un'arcata buia quando improvvisamente la torcia si spense e il suo portatore lanciò un breve feroce grido d'agonia. Un'esplosione di fuoco blu balenò nell'oscuro corridoio, nel quale il furioso viso di Salomè si stagliò per un momento assieme a una figura dall'aspetto bestiale accucciata accanto a lei. Poi gli occhi degli spettatori furono accecati da quel bagliore. Valerius cercò di avanzare barcollando lungo il corridoio con la regina. Stordito, udì il suono di colpi assassini penetrare profondamente nella carne, accompagnati da gemiti di morte e da un grugnire bestiale. Poi la regina gli venne strappata brutalmente dalle braccia e un colpo terribile sull'elmetto lo fece stramazzare al suolo. Penosamente strisciò carponi, scuotendo il capo nel tentativo di scacciare il fuoco azzurro che sembrava ancora danzare diabolicamente davanti ai suoi occhi. Quando la sua vista accecata si schiarì, Valerius si trovò solo nel corridoio, solo tranne i morti. I suoi quattro compagni giacevano nel loro sangue, teste e petti squarciati e lacerati. Accecati e storditi da quel bagliore infernale, erano morti senza avere l'opportunità di difendersi. La regina era sparita. Con un'amara imprecazione, Valerius raccolse la spada e si tolse dalla testa l'elmetto rovinato, scagliandolo rumorosamente sul pavimento di pietra. Il sangue scorreva lungo una guancia da un taglio sul cranio. Voltandosi in preda all'indecisione, udì una voce chiamare il suo nome con ansia disperata. «Valerius! Valerius!» L'uomo barcollò nella direzione della voce e girò un angolo giusto in tempo per ritrovarsi tra le braccia una snella e morbida figura che si aggrappò disperatamente a lui. «Ivga! Sei impazzita!» «Dovevo venire!» singhiozzò la ragazza. «Ti ho seguito nascosta sotto un arco del cortile esterno. Un momento fa l'ho vista sbucare insieme a un bruto che portava una donna tra le braccia. Sapevo che si trattava di Taramis e che avevi fallito. Oh, ma sei ferito?» «Ah, è solo un graffio!» Scostò di lato le mani di lei. «Svelta, Ivga! Dimmi da che parte sono andati!» «Sono fuggiti attraversando la piazza, verso il tempio.» Valerius impallidì. «Ishtar! Oh, il demone! Quella strega vuole dare Taramis in pasto al diavolo che venera! Svelta, Ivga! Corri alle mura meridionali dove il popolo sta osservando la battaglia! Di loro che la vera regina è stata ritrovata, che l'impostora l'ha trascinata al tempio, ti prego, vai! Singhiozzando, la ragazza partì rapida, con i leggeri sandali che ticchettavano nel cortile. Poi si tuffò nella strada e, attraversata velocemente la piazza, corse verso la grande struttura che sorgeva sul lato opposto. Anche i piedi di Valerius volarono sul marmo quando affrontò l'ampia scalinata e attraversò il portico a colonne. Evidentemente la prigioniera aveva causato alcuni problemi. Taramis, intuendo il destino che le era stato riservato, stava lottando contro di esso con tutte le forze del suo splendido giovane corpo. Una volta era anche riuscita a sfuggire alle grinfie del brutale sacerdote, solo per essere riacciuffata nuovamente. Il gruppo era giunto a metà dell'ampia navata, al cui fondo si trovava il cupo altare, e dietro di esso la grande porta metallica dai rilievi osceni attraverso la quale molti erano passati, ma dalla quale solo Salomè era sempre uscita. Il fiato di Taramis era ansimante. I suoi abiti laceri le erano stati strappati completamente durante la lotta. Tremava nella stretta del suo scimmiesco carceriere, come una bianca ninfa nuda nelle braccia di un satiro. Salomè osservava cinicamente, anche se con impazienza, muovendosi verso la porta scolpita, e dall'oscurità che incombeva lungo le alte pareti, gli dei osceni e i demoni fissavano lascivamente, come imbevuti di una vita lussuriosa. Soffocato dall'ira, Valerius si avventò lungo il grande salone, la spada in mano. A un acuto grido di Salomè, il sacerdote dal cranio scheletrico alzò lo sguardo, poi si liberò di Taramis ed estrasse un pesante coltello già macchiato di sangue e corse contro l'incalzante Caurano. Però abbattere uomini accecati dalla diabolica fiamma liberati da Salomè era diverso dal combattere contro un robusto giovane iboriano infiammato d'odio e di rabbia. Il pugnale gocciolante si levò in alto, ma prima che potesse abbattersi, l'affilata lama di Valerius morse l'aria e il pugno che reggeva il coltello si staccò dal polso in una pioggia di sangue. Valerius, in preda alla frenesia della lotta, colpì nuovamente e poi ancora, prima che la secca figura crollasse al suolo. La lama attraversò carne ed ossa. La testa scheletrica cadde da un lato, il tronco semimozzato dall'altra. Valerius si girò sulle punte dei piedi, rapido e feroce come un felino, cercando ferocemente con gli occhi Salomè. La strega doveva aver esaurito la sua polvere incendiaria nella prigione. La strega ora era china su Taramis e serrava i riccioli neri della sorella in una mano, mentre nell'altra sollevava un pugnale. Allora, con un urlo feroce, la spada di Valerius le si piantò nel petto, con tale forza che la punta fuoriuscì dalle spalle. Con un urlo terribile, in preda alle convulsioni, la strega si accasciò stringendo la lama nuda, mentre veniva estratta fumante e gocciolante. Gli occhi di Salomè erano inumani. Con qualcosa di più che umana vitalità, la donna si afferrava alla vita, mentre essa le sfuggiva attraverso la ferita che le lacerava la mezzaluna cremisi sul petto d'avorio. Strisciò sul pavimento, artigliando e mordendo nell'agonia le nude pietre del pavimento. Nauseato da quella vista, Valerius si chinò e sollevò la regina semisvenuta, rivolgendo le spalle alla figura che si contorceva sul pavimento. Corse verso la porta, inciampando per la fretta. Uscì barcollando nel portico e si fermò in cima alle scale. La piazza era affollata di persone. Alcuni erano arrivati dopo le incoerenti strida di Ivga. Altri avevano abbandonato le mura per timore delle sciamanti orde del deserto, fuggendo irrazionalmente verso il centro della città. L'ottusa rassegnazione era svanita. La moltitudine si apriva e mulinava, urlando e gridando. Nelle strade attorno si udiva il rumore di pietra e di legno spaccato. Una banda di biechi scemiti fendette la folla. Erano le guardie del cancello settentrionale che si precipitavano verso il cancello meridionale a rinforzo dei loro compagni laggiù. Si fermarono bruscamente alla vista del giovane sui gradini che sorreggeva tra le braccia la snella figura nuda. Le teste della folla si rivolsero verso il tempio. La ressa rimase a bocca aperta e un nuovo stupore si aggiunse alla loro turbinante confusione. «Ecco la vostra regina!» tuonò Valerius sforzandosi di farsi sentire al di sopra del clamore. La folla eruppe in un ruggito di stupore. Non capivano e Valerius cercò invano di levare la sua voce sopra il clamore. Ma gli scemiti si diressero verso i gradini del tempio, aprendosi una via tra la folla con le lance. Poi un nuovo orribile elemento si aggiunse a quella confusione. Dall'oscurità del tempio, alle spalle di Valerius, ondeggiò una snella figura bianca striata di cremisi. Il popolo urlò. Là, tra le braccia di Valerius, si trovava la donna che essi ritenevano la loro regina. Però lì, sulla porta del tempio, barcollava un'altra figura simile al riflesso dell'altra. Le menti delle persone turbinarono. Valerius sentì il sangue congelarsi quando il suo sguardo si posò sulla strega barcollante. La sua spada l'aveva trafitta, le aveva trapassato il cuore. Sarebbe dovuta essere morta, secondo tutte le leggi della natura, doveva essere morta. Eppure là, barcollante, lei era in piedi, afferrandosi orribilmente alla vita. «Taug!» gridò la strega voltandosi verso l'interno del tempio. «Taug!» Come in risposta a quella spaventosa invocazione, un gracchiare tonante echeggiò dall'interno del tempio, seguito dallo schianto di legno e di metallo. «Quella è la regina!» ruggì il capitano degli scemiti alzando l'arco. «Abbattete quell'uomo e l'altra donna!» Però il ruggito di un branco furioso si levò dalla folla. Avevano finalmente intuito la verità, avevano compreso i frenetici appelli di Valerius. Sapevano che la ragazza sospesa, inerme tra le sue braccia, era la loro vera regina. Con un urlo da scuotere l'anima, si riversarono addosso agli scemiti, lacerando e colpendo con i denti e le unghie, a mani nude, con la disperazione di una furia repressa, finalmente liberata. Sopra di loro, Salomè ondeggiò e rotolò giù dalla scalinata di marmo, finalmente morta. Le frecce guizzavano attorno a Valerius mentre correva a ripararsi tra i pilastri del portico, facendo scudo con il suo corpo a quello della regina. Tirando e colpendo senza pietà, gli scemiti a cavallo stavano resistendo alla folla impazzita. Valerius volò verso la porta del tempio, ma già con un piede oltre la soglia si ritrasse, gridando per l'orrore e la disperazione. Perché dalla tenebra all'altra estremità della grande sala si era levata un'enorme figura scura che si mosse rapida verso di lui con giganteschi balzi da batrace. Valerius colse il luccichio di grandi occhi alieni, il brillare di zanne o di artigli. Arretrò oltre la porta e poi il ronzio di una freccia gli sfiorò l'orecchio e lo avvertì che la morte era anche alle sue spalle. Si girò in preda alla disperazione. Quattro o cinque scemiti erano riusciti ad aprirsi un varco tra la folla e stavano spronando i loro cavalli su per i gradini, gli archi levati e tesi per colpirlo. Valerius balzò dietro una colonna contro la quale si spezzarono le frecce. Taramis era svenuta. Penzolava come un cadavere nelle sue braccia. Prima che gli scemiti potessero scagliare un'altra salva di frecce, la porta venne bloccata da una figura gigantesca. Con grida di orrore, i mercenari voltarono i cavalli e iniziarono ad aprirsi una frenetica via di fuga attraverso la calca che arretrò colta da un improvviso e galvanizzante orrore, calpestando ogni cosa nella fuga incontrollata. Intanto, il mostro sembrò aver notato Valerius e la ragazza. Schiacciando la sua enorme mole dondolante attraverso la porta, rotolò verso il giovane, mentre questi fuggiva giù per le scale. Valerius lo sentiva incombere su di sé. Una enorme figura tenebrosa, simile ad uno scherzo della natura, ritagliato dal cuore della notte. Una nera massa informe, nella quale si riusciva a distinguere solo gli occhi fissi e le zanne luccicanti. Poi giunse un improvviso tuonare di zoccoli. Un gruppo di scemiti in rotta, sanguinanti e laceri, sciamò nella piazza da sud, fendendo alla cieca la folla compatta. Dietro di loro apparve un'orda di cavalieri urlanti in una lingua familiare che sventolavano spade rosseggianti. Gli esuli erano tornati. Insieme a loro cavalcavano 50 predoni del deserto dalle nere barbe e alla loro testa una gigantesca figura in cotta di maglia nera. «Conan!» strillò Valerius. «Conan!» Il gigante tuonò un ordine. Senza frenare il loro impeto, gli uomini del deserto sollevarono gli archi, tesero e tirarono. Un nugolo di frecce attraversò sibilando la piazza sopra le ribollenti teste della moltitudine e affondò fino alle piume nel mostro nero. Questi si fermò, barcollò, si alzò, una macchia nera contro i pilastri di marmo. L'aguzza nube sibilò ancora e poi ancora. E l'orrore crollò e rotolò lungo i gradini, morto come la strega che l'aveva richiamato dalla notte dei tempi. Conan si fermò accanto al portico e balzò giù dalla sella. Valerius aveva deposto la regina sul pavimento di marmo, accasciandosi accanto a lei, completamente esausto. Il popolo si radunava attorno a loro. Il cimmero, imprecando, ordinò di arretrare e sollevò il capo bruno della regina, appoggiandolo contro la sua spalla protetta dalla corazza. «Per Crom, chi è questa? La vera Taramis! Ma chi è quella laggiù?» «Il demonio che si era impadronito della sua forma!» ansimò Valerius. Conan imprecò sonoramente. Strappando il mantello dalle spalle di un soldato, vi avvolse il corpo nudo della regina. Le lunghe ciglia scure della ragazza vibrarono sulle sue guance. I suoi occhi si aprirono, fissando increduli il volto di Conan segnato dalle cicatrici. «Conan!» Le sue fragili dita lo strinsero. «Lei mi ha detto che eri morto!» «Non direi!» sorrise cupamente Conan. «Non stai sognando. Sei nuovamente la regina di Cauran. Io ho sconfitto Constantius nei pressi del fiume. La maggior parte dei suoi cani non vivrà per raggiungere le mura, perché ho dato ordine di non fare prigionieri, tranne Constantius. Le guardie della città ci hanno chiuso le porte in faccia, ma siamo entrati grazie agli arieti, manovrati restando in sella. Ho lasciato tutti i miei lupi all'esterno, tranne questi 50. Non mi fidavo di averli qui, e questi ragazzi di Cauran erano sufficienti per le guardie ai cancelli.» «È stato un incubo», gemette la regina. «Oh, il mio povero popolo! Devi aiutarmi a ripagarli per tutto quello che hanno sofferto! Conan, d'ora in avanti, sia consigliere che capitano!» Conan rise, ma scosse il capo. Alzandosi, mise in piedi la regina e rivolse un cenno ad alcuni cavalieri di Cauran che non avevano inseguito gli scemiti in fuga. I cavalieri balzarono giù da cavallo, ansiosi di obbedire alla loro ritrovata regina. «No, ragazza, io qui ho finito. Ora sono capo degli Zuagiri e li devo guidare al saccheggio dei Turaniani, come ho loro promesso. Questo ragazzo, Valerius, sarà un capitano migliore di me. Comunque, non sono fatto per vivere tra mura di marmo. Adesso però vi devo lasciare e completare ciò che ho iniziato. A Cauran vivono ancora alcuni scemiti.» Mentre Valerius si muoveva per seguire Taramis attraverso la piazza verso il palazzo, lungo un passaggio aperto dalla folla esultante, sentì una mano morbida scivolare timidamente verso le sue forti dita e si girò per ricevere il flessuoso corpo di Ivga tra le braccia. La strinse forte a sé e beve i suoi baci con la gratitudine di un guerriero stanco che ha finalmente ottenuto il meritato riposo dopo tribolazioni e vicissitudini. Però non tutti gli uomini cercano riposo e pace. Alcuni sono nati con lo spirito della tempesta nel sangue, incessanti araldi di violenza e massacro, che non conoscono nessun'altra strada. Il sole stava sorgendo. L'antica via carovaniera era affollata di cavalieri vestiti di bianco che si snodavano in una linea flessuosa che si stendeva dalle mura di Cauran fino a un punto lontano nella pianura. Conan il Cimmero sedeva alla testa della colonna, vicino al troncone frastagliato di un palo di legno che spuntava dal terreno. Vicino al troncone sorgeva una pesante croce e su quella croce era inchiodato, mani e piedi, un uomo. 7 mesi fa, Constantius, ero io appeso là e tu seduto qui. Constantius non replicò. Si leccò le labbra cinere e i suoi occhi erano vitrei per il dolore e la paura. I muscoli vibravano come corde lungo il suo agile corpo. Sei più bravo a infliggere la tortura piuttosto che a subirla. Io rimasi appeso sulla croce come lo sei tu adesso e vissi grazie alle circostanze e a una resistenza peculiare di noi barbari. Però voi, uomini civilizzati, siete deboli. Le vostre vite non sono inchiodate alla vostra spina dorsale come le nostre. La vostra forza consiste principalmente nell'infliggere tormenti, non nel sopportarli. Sarai morto prima del tramonto. E così, falco del deserto, ti lascio in compagnia di un altro uccello del deserto. Rivolse un cenno verso gli avvoltoi, le cui ombre spezzavano le sabbie mentre roteavano in alto nel cielo. Dalle labbra di Constantius giunse un grido disumano, di disperazione e di orrore. Conan scosse le redini e si avviò verso il fiume che brillava come argento nel sole del mattino. Dietro di lui i cavalieri vestiti di bianco lo seguivano al trotto. Lo sguardo di ognuno di loro mentre superavano un certo punto si girava con la mancanza di compassione tipica dell'uomo del deserto verso la croce e la magra figura che vi era appesa, nera contro il sole che sorgeva. Gli zoccoli dei loro cavalli suonarono un rintocco funebre nella polvere, mentre le ali degli avvoltoi affamati si abbassarono sempre di più. Fine. La locanda della tormenta è stata lieta di presentare Conan, nascerà una strega. Grazie per l'ascolto.